Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia. Poche partite, pochissimi gol, ma uno è stato segnato proprio un istante fa a Cagliari. E allora saluto subito Dario Ricci, che è il nostro inviato a telefono di oggi, così ce lo racconta. Dario. Eccoci Carlo, buon pomeriggio. È Marco Di Vaio che ha siglato l'1-0 per il Bologna sul Cagliari. C'è stato un cross a centro area. Conti, strano per lui, ha commesso un errore, ha sbagliato il rinvio, inviando proprio sui piedi di Di Vaio, che a quel punto ha avuto gioco facile nel calciare alle spalle di Agazzi. Agazzi che del resto, tra l'altro, appena 30 secondi prima aveva deviato in calcio d'angolo proprio uno splendido destro dello stesso Di Vaio, salvando la porta del Cagliari, salvataggio che invece non è riuscito in questa seconda battuta. Un aggiornamento anche da Palermo, dove il Palermo è in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina per effetto della rete di Micco al 22esimo, ma pochi istanti fa al 24esimo c'è stata una punizione di Cerci, colpo di testa di Natali proprio a centro area, traversa piena e Palermo che si è quindi salvato, così come era stato bravo pochi istanti prima Benussi. È arrivato il pareggio, il 2-0 del Palermo, 2-0 del Palermo proprio in questo istante su calcio di punizione di Ilicic, una punizione dal limite splendidamente calciata da Ilicic, 28esimo del secondo tempo, 2-0 del Palermo sulla Fiorentina. Beh, la Serie A ci ha aspettato per svegliarci, Carlo. Stavo dicendo la stessa cosa, hanno aspettato noi per cominciare a segnare. D'altra parte oggi pomeriggio 4 partite in questa 13ª giornata estremamente spalmata tra venerdì e le 4 gare di ieri, che peraltro hanno lasciato tanti spunti di discussione, a cominciare dal piglio della Juventus. Beh, oggi pomeriggio sono solo 4 partite e vi abbiamo raccontato 2 dei 4 gol fin qui, anzi dei 3 gol fin qui segnati. Lo ripeto, a Cagliari in vantaggio il Bologna 1-0 con questo bellissimo colpo sotto in mischia dopo un batti e ribatti di Di Vaio. Quindi c'è il Cesena in vantaggio 1-0 sul Genoa. Il gol è stato segnato da Mutu su rigore contro il suo amicone Fre, ex compagno di squadra per tante stagioni alla Fiorentina. 24esimo della ripresa, il fallo di Moretti su Bogdani, il rigore fischiato da Rizzoli e il cucchiaio di Mutu a Fre. Mutu che ne ha segnato un altro, mi pare, caro Dario. Sì, ha siglato proprio in questo istante il raddoppio. Beh, si può dire che è proprio la domenica della rinascita, Carlo, per il centravanti romeno, che anche a Cesena aveva cominciato in modo piuttosto opaco la stagione. È arrivata invece questa doppietta, siamo al 34esimo, il 2-0, c'è stato il lancio sulla sinistra, Mutu al limite dell'area ha fatto partire un destro a giro che si candida a essere già il più bel gol della domenica, perché qua è andato proprio a togliere, come si dice, la ragnatela dall'incrocio sul palo più lontano. Fre si è potuto solo girare per raccogliere il pallone, sì, in fondo al sacco. Due grandi gol di Adrian Mutu, anche il rigore tirato in modo beffardo con il cucchiaio a Fre non è stato male, però questo decisamente meraviglioso con questo diagonale incrociato da sinistra verso destra, appunto all'incrocio dei pali. Dicevamo del 2-0 del Palermo sulla Fiorentina, Palermo che è l'unica squadra d'Europa a non aver mai segnato in trasferta, una statistica piuttosto bizzarra, ma che in casa non fa prigioniera, anche se la Fiorentina oggi con Degli Rossi salutato con grande calore dai tifosi palermitani prima della gara. Ebbene, dopo il gol di Miccoli al 22esimo c'è stata molta Fiorentina, compresa un tiro di Montolivo estremamente pericoloso, compresa una traversa colpita prima del raddoppio di Ilicic. È 0-0 e rimane l'unico a questo punto del pomeriggio quello di Siena. Ieri Ranieri aveva ordinato ai suoi: adesso bisogna cominciare a vincere, fare un filotto per riportarci in posizioni più consone. Beh, non una grande Inter quella che si sta vedendo oggi a Siena. Siena di Sanremo, squadra estremamente interessante, in grandi condizioni fisiche, mi sembra l'Inter che sta facendo molta fatica, e resta questo 0-0. Poi per il resto insomma, i risultati di ieri sono quelli che saprete, ma che ci lasciano oggi pomeriggio ampi spunti di discussione, cosa che poi faremo. Discussione con gli ascoltatori, naturalmente, invitati fin da ora. 800 24 00 24 è il numero verde, messaggi 349 238 6666, poi c'è Facebook attraverso il quale potete inviarci i vostri commenti, potete seguirci su Twitter naturalmente, io continuo a ripetervelo, spero che lo facciate in molti. Juventus che ieri ha vinto come fanno le grandi squadre, con coraggio, con sofferenza, con carattere, con ordine e con un filo di fortuna per quel palo di Hernandez, ma stiamo per assistere ad un altro gol prima di cominciare a parlare di motori, perché oggi c'è l'ultima corsa stagionale in Brasile, si parte alle 17, anche di questo vi daremo conto. Dario Ricci, che succede a Cagliari? Vediamo se Gillet è d'accordo con la tua profezia, perché calcio di rigore per il Cagliari, parte Conti ed è effettivamente rete, Carlo, e quindi pareggio del Cagliari col Bologna quando è il 35esimo del secondo tempo, 1-1, c'è stata una mischia in area di rigore, molto probabilmente, visto che le trattenute sono state più d'una, Valeri ha visto il fallo più evidente, quello di Raggi su Canini, il difensore Fessinio ha di fatto trascinato Canini a terra proprio sotto gli occhi dell'arbitro, le consuete proteste, ma il rigore mi è parso netto e Conti ha battuto Gillet con un destro non molto angolato, ma che ha spiazzato il portiere del Bologna. 36esimo di gioco, quindi Cagliari 1, Bologna 1. C'è chi scrive: Mutu fino ad ora gol di giornata, che ne pensa? Beh, mi sembra abbastanza banale dire che è il gol della giornata, è uno dei più belli del campionato, peraltro. Mario Poltroneri, buonasera. Buonasera a te, Carlo, buonasera a tutti. Mentre ci guardiamo questa grandinata di gol in pochissimi minuti, aspettiamo l'ultima corsa della stagione con la solita griglia di partenza, con Vettel, 15esima pole stagionale, davanti al compagno di squadra Weber. Mario, posso dire meno male che è finita, perché ci stavamo un po' annoiando? Sì, senza dubbio, senza dubbio. Del resto lo si percepisce anche nel numero degli spettatori, c'è un calo, ma c'è un calo che non è solo legato alla superiorità di Vettel, c'è anche il problema che le vetture ormai non riescono più a creare quello spettacolo che c'era una volta, queste vetture non sbandano più, se si vedono con l'ultimo Gran Premio ripreso dall'altro, sembrano le piste delle automobiline polistiche, e c'è qualche cosa che va rivisto in questo regolamento, ma non è l'argomento del giorno, questo avremo occasione di parlarne in futuro. Oggi bisogna dire che il Vettel naturalmente cercherà di dimostrare una volta di più che è in grado, come si comincia a pensare e a dire, di raggiungere i 7 titoli mondiali di Schumacher. Sì. Sarebbe una cosa eccezionale. Manca tanta strada, manca un po' di strada. Sì, manca un po' di strada, soprattutto nel 2014, quando cambierà, speriamo radicalmente, il regolamento con i nuovi motori turbo, può darsi che la situazione cambi, però mentre parliamo di Vettel bisogna anche ricordare Adrian Newey, cioè il progettista, perché Vettel sicuramente è il più forte di tutti in questo momento, ma è anche una vettura progettata da un uomo che è riuscito a trovare la soluzione ideale, cioè di avere una macchina che non è velocissima sul diritto, ma è molto veloce in curva, e si quindi sulla media dei circuiti riesce a ottenere un risultato positivo che poi Vettel esalta con la vittoria. Si tratta di capire quanto tempo durerà questa egemonia, fino a quando McLaren, Ferrari e quelli che comunque hanno molti quattrini riusciranno a colmare questo gap. C'è anche questa frase sibillina un po' di Alonso che dice: siamo tra il podio e l'ottavo posto. Sì, il problema Ferrari è un problema sicuramente delicato. Alonso ha dimostrato di essere certamente il pilota più maturo, diciamo così, se vogliamo concedere che Vettel è po' giovane, ma il problema Ferrari è un problema grosso, perché dall'inizio della stagione a oggi non è riuscito mai a trovare il bandolo della matassa, e cioè questa l'aderenza che aveva la Red Bull, anche le stesse Mercedes, che si sono fatte vedere soprattutto con Rosberg nelle prove di questo Gran Premio. Quindi il problema Ferrari è un problema che va risolto radicalmente. Lo staff è cambiato in corso di stagione, lo staff tecnico di progettazione, quindi vediamo che cosa riesce a fare per l'anno 21. Certo è che questa Red Bull continua a essere il punto di riferimento, e Newey sicuramente sta studiando qualche altra soluzione che, con le piccole modifiche regolamentari che ci saranno da questa stagione alla prossima, potranno consentirgli di continuare a mantenere una vettura di vertice. Però sicuramente questo campionato ha avuto una flessione, ma io ritengo non solo perché c'era un pilota che comunque vinceva, ma proprio perché il pubblico fa in un certo senso fatica a capire perché in una corsa basta che si perda un secondo ai box e tutto il lavoro che hai fatto è reso inutile perché c'è un avversario che ti passa. Quindi va rivisto. Comunque adesso i discorsi che stanno facendo Interlagos sono soprattutto legati alla questione delle spese, perché c'è chi accusa la Red Bull di aver speso di più di quello che era un plafond che era stato concordato tra le squadre. Io credo che sia molto difficile riuscire a decidere delle norme che possano realmente controllare le spese. Certo si è che questo tipo di formula è costosissimo. Sì. Considerata la situazione nella quale ci troviamo, speriamo che col tempo tornino verso macchine più normali, sì, e con le quali probabilmente si spende anche meno. Paradossalmente è anacronistica questa Formula 1 che ormai non diverte più nessuno. Mario, ti ringrazio, ci sentiamo alla prossima. Grazie, grazie a Mario Poltronieri. Attendendo questa corsa che, lo ripeto, parte alle 17, poi vi racconterò magari anche il via della gara in Brasile. Intanto, prima di fermarci per il traffico, andrei da Dario Ricci per un aggiornamento. Non ci sono stati altri gol, altrimenti ve l'avrei detto tempestivamente, però c'è un quasi gol, quello dell'Inter. Sì, c'è, diciamo, segnali di vita dell'Inter a Siena, anche se proprio negli ultimi spiccioli della partita. Risultato ancora sullo 0-0, siamo al 42esimo, 3 minuti fa, calcio di punizione dal limite proprio per i nerazzurri, sul pallone Thiago Motta, sinistro velenoso, forte, non troppo angolato, Burkic per sicurezza si lancia sulla sua sinistra, devia e poi la difesa sbroglia. Questa è l'occasione, il tiro non era sembrato irresistibile e non sicurissima anche la respinta del portiere senese. Ci fermiamo per il traffico, subito dopo torniamo riepilogando i risultati. 800 24 00 24, ve lo ricordo, da ora fino alle 19 se volete intervenire. Vedi che ci aspettano a segnare, Dario Ricci. È vero, hanno ascoltato anche tutta la pubblicità, ma è arrivato il gol forse più importante della domenica, perché l'Inter è in vantaggio a Siena, siamo al 44esimo e il gol del protagonista che non ti aspetti, Luc Castagnossa, il primo gol in nerazzurro, sblocca questa partita, siamo al 45esimo in questo istante, Thiago Motta dal limite, la palla filtrante a centro area, Castagnos bravo a controllare il pallone, a proteggerlo dall'assalto dei difensori senesi e a battere di destro Burkic dall'altezza del dischetto del calcio di rigore. Siena 0, Inter 1, e davvero pochi istanti ora per i toscani per provare almeno a pareggiare questa sfida, Carlo. Sì, gol molto importante per l'Inter, devo dire un peccato per il Siena perché non merita di perdere questa partita. Bravo Thiago Motta a vedere il taglio di Castagnos centrale, un po' meno bravi i difensori del Siena nel chiudere su questo taglio, hanno permesso a Castagnos di ricevere, girarsi e segnare con questo destro molto preciso dal limite dell'area. Dunque, a partite non ancora finite, ma siamo al 90esimo, quindi manca il recupero ed è, ripeto, 1-1 tra Cagliari e Bologna. Il Cesena in vantaggio 2-0 sul solito Genoa da trasferta. Il Palermo invece è il solito formato casalingo, sta vincendo 2-0 con la Fiorentina. C'è ora un'espulsione, mi sembra Brienza, anzi sono certo Brienza, e quindi Siena che chiude la partita in inferiorità numerica dopo aver beccato ora il gol di Castagnos che permette all'Inter di condurre 1-0. Tra i vari spunti di cronaca da segnalare anche in Cesena-Genoa, giornata totalmente storta per il rossoblù, anche perché al 15esimo della ripresa una stupidaggine di Palacio che ha segnato a gioco abbondantemente fermo. Rizzoli lo ha ammonito, Palacio era in diffida e salterà la sfida di venerdì con il Milan. Ammonizione molto stupida, ripeto, quella dell'argentino che resta comunque il giocatore più importante del Genoa. Tra le altre notizie di giornata, la sconfitta dell'Italia della pallavolo nella World Cup giapponese 3-1 con Cuba e cammino verso le Olimpiadi che diventa molto difficile a questo punto per gli azzurri. C'è Petrucci che ha convocato il famoso tavolo della pace per il 14 di dicembre. Auguri a tutti, magari Petrucci confida nello spirito natalizio che potrebbe animare quel tavolo, che sarà tutt'altro che festivo, tutt'altro che natalizio, e non vorrei essere in quel tavolo, come già ho detto altre volte, perché verrà riempito di pugni. Sempre tra le notizie di giornata ce n'è una agghiacciante. che è il suicidio probabile del commissario tecnico del Galles, ex giocatore peraltro del Leeds, ex giocatore di un certo livello, Gary Speed, era commissario tecnico del Galles, è stato trovato morto nella sua abitazione, notizia agghiacciante che fa il paio con quella che abbiamo dato una settimana fa relativa all'arbitro della Bundesliga che ha tentato suicidio. Insomma, c'è questo filo nero che sta attraversando il calcio. Tra le altre notizie di giornata ce n'è anche invece una molto meno una molto più allegra, che riguarda, poi ne parliamo, anche perché ho un messaggio di un ascoltatore di Taormina che domandava lumi sulla maratona di Firenze, poi ne parleremo con Giuseppe Cruciani che l'ha corso, ci domandava ma qual è stato il tempo di Cruciani. Ho letto ora un'agenzia, Cruciani molto più lento rispetto a Linus in questa maratona. Linus ha finito la gara in 3 ore 27 e 14, 1483esimo posto, Cruciani 3 ore 57 e 10, 3747esima posizione per la nostra Zanzara. Tagli, ritagli e frattagli, poi ne parliamo con il diretto interessato, con cui parleremo anche un po' di pallone. In quanto ha corso Renzi, sindaco di Firenze, 4 ore 11 e 1, 4765esima posizione. Dunque queste le notizie più o meno importanti della giornata. Aspettiamo la fine di queste partite con l'Inter che sta conducendo, ripeto, 1-0, mentre mancano spiccioli di recupero. Saluto anche Giacomo Bagnasco. Ciao Giacomo. Buon pomeriggio Carlo. Com'è andato il sabato, il weekend del rugby? Il weekend del rugby non è andato bene, anche se ci troviamo a commentare ancora una volta due facce di una medaglia, nel senso che nel Pro 12, che ha ripreso il suo cammino dopo la pausa dovuta alle coppe europee, c'è stata una netta sconfitta che ancora una volta ha interessato gli Aironi, che hanno giocato a Cardiff e hanno perso 38-0, una partita che si è risolta nel secondo tempo con gli Aironi che hanno ceduto, si può dire, quasi di schianto, mentre il Benetton giocava contro gli irlandesi del Leinster, campioni d'Europa, cioè vincitori dell'Heineken 2011, hanno perso in casa Treviso 30-20, altro risultato, altro spessore per la prestazione della squadra trevigiana, che comunque conferma di essere almeno in casa all'altezza anche di queste grandi avversarie. Leinster, a cui manca Brian O'Driscoll, che salterà anche il Sei Nazioni, ha avuto un grave infortunio. Comunque Leinster sempre squadra di altissimo livello. Da dire infine che oggi si raduna la nazionale italiana e quindi comincia sul campo, possiamo dire, l'era Brunella, è il primo raduno. Naturalmente è facile commentare l'importanza di questo raduno, anche se c'è da dire che Brunella ha già cominciato a lavorare, è stato già attivo anche al raduno della nazionale emergenti, che cui si vuole dare molta importanza quest'anno, e la nazionale di ragazzi giovani che provengono soprattutto dal campionato di eccellenza. Sì. Speriamo che ne venga fuori qualcosa di interessante. Sì, e speriamo anche risultati un po' diversi prima o poi delle nostre nelle coppe, perché dalle trasferte non segnare nemmeno un punto è una discreta umiliazione per gli Aironi. Io ringrazio Giacomo Bagnasco e torno di corsa da Dario Ricci, perché abbiamo i finali. Sì, tutte finite le gare di Serie A, partirei dai risultati, Cagliari, per poi andare Carlo, per poi andare su alcuni episodi degli ultimi minuti. Cagliari-Bologna 1-1, Bologna in vantaggio al 30esimo del secondo tempo con Di Vaio, il pareggio del Cagliari al 36esimo su calcio di rigore di Conti. Cesena-Genoa 2-0, doppietta di Adrian Mutu in rete al 25esimo del secondo tempo sul rigore, e poi al 35esimo con quello splendido destro a giro sul secondo palo che abbiamo raccontato. Palermo-Fiorentina 2-0, i gol dei palermitani al 22esimo del primo tempo di Miccoli, poi uscito nella ripresa per infortunio, al 28esimo del secondo tempo, punizione a giro di Ilicic, e poi la vittoria dell'Inter a Siena decisa proprio negli ultimi minuti al 44esimo del secondo tempo, la rete di Castagnos, da rivelare a Palermo negli ultimi istanti l'espulsione di Natali per proteste. Invece in Cagliari e Bologna, proprio negli ultimi minuti, un'occasione per parte con Ramirez che ha calciato fuori a tu per tu con Agazzi da ottima posizione. Al 43esimo, dribbling e conclusione di destro di Barbo, si è superato Gillet per difendere il pareggio dei bolognesi. Perfetto, grazie a Dario Ricci. Dunque i temi della giornata ormai li conosciamo tutti, aspettando il Milan che giocherà questa sera senza metà della difesa, perché come sapete Nesta fuori un mese, Abbiati che si è fatto male e non sarà della partita questa sera, dunque Milan in emergenza sul campo del Chievo, con Allegri che ieri ha detto vorrei il primato entro Natale. Scriverà questo sulla letterina oltre al nome di un giocatore che mi sembra quello che vorrebbero in regalo anche la Juventus e l'Inter, come ha detto ieri Ranieri, ed è Carlitos Tevez. Tra l'altro, altro argomento interessante di discussione, leggevo oggi Alberto Costa sul Corriere della Sera, che sottolineava come in tempo di crisi al Milan cercano i bad boys, cioè quelli che si mettono in rotta di collisione con i loro club in un modo o nell'altro, con l'allenatore del loro club di appartenenza, come era successo con Ibra, tra Ibra e Guardiola. Vabbè, l'anno scorso Ibrahimovic, poi Cassano in situazione di scazzo con Garrone, come sapete, adesso Tevez che si è messo contro Mancini. E allora prendiamo i bad boys a prezzo di saldo. Il prossimo chi sarà? Mario Balotelli? Non lo so, sto immaginando, sto fantasticando. 800 24 00 24. Dunque aspettiamo il Milan questa sera. Per il resto mi sembra che la squadra del giorno sia di nuovo la Juventus, che ieri ha vinto come fanno le grandi squadre, dicevo, con coraggio, carattere, sofferenza, fatica, ordine, precisione, un grande gol segnato da Pepe che è forse il giocatore simbolo di questa Juventus risorta di Antonio Conte, giocatore che non era ai margini del progetto lo scorso anno, ora è diventato l'esterno chiave della Juventus, adesso trova anche il gol che festeggia con il colpo di swing, come ben sapete, da lui appassionato di golf oltre che di gol, e l'autostima di questa squadra che cresce. Ieri sera c'era un esame con la Lazio, superato bene i voti, martedì ce ne sarà un altro sul campo di un Napoli che ieri ha limitato i danni a Bergamo. Mi viene da dire che più di così era difficile chiedere alla squadra di Mazzarri dopo l'impresa con il Manchester City. C'è però un problema da romanzo criminale che attanaglia il Napoli, perché se tra indizi fanno una prova, rapinata la villa di Cavani come sapete 2 settimane fa, poi l'aggressione, la rapina alla moglie di Amsic, tra l'altro in dolce attesa, ieri il Rolex scippato alla fidanzata di Lavezzi, è un bel dire De Laurentiis quando dice in tempi di crisi non si va in giro con cose preziose. Insomma, tanti argomenti di cui discutere. 800 24 00 24, vi aspetto qui. Vedo che c'è già Ranieri pronto per parlare, tra poco ve lo faccio sentire attraverso i microfoni di Sky. Intanto al volo riepilogo i risultati di oggi delle 4 partite che si sono giocate nel pomeriggio. 1-1 tra Cagliari e Bologna, prima di Vaio al 31esimo e poi Conti su rigore al 36esimo, tutto nella ripresa. Il Cesena che ha battuto 2-0 il Genoa, e la panchina di Malesani potrebbe traballare anche oggi. La doppietta di Mutu, 24esimo su rigore, 34esimo, con un destro magnifico all'incrocio dei pali. Il 2-0 del Palermo sulla Fiorentina, con i gol di Miccoli al 22esimo del primo tempo e Ilicic su punizione al 28esimo della ripresa, e poi il gol di Castagnos che ha dato la vittoria all'Inter. E poi possiamo anche discuterne, perché Coutinho una settimana fa nel 2-1 sul Cagliari, Alvarez il gol della qualificazione in Champions League a Trebisonda, ora Castagnos altro gol estremamente pesante. Non so se sta nascendo un Inter dei giovani, certo è che Ranieri sta trovando in questi ragazzi la linfa che serve all'Inter per risalire la china. Ranieri. Volenti, però giocare contro 11 uomini che si mettono negli ultimi 30 metri non è facile, per cui devo essere soddisfatto della prova dei ragazzi, perché fino all'ultimo ci hanno creduto, abbiamo sofferto perché contro questo Siena non era facile giocare, per cui prendiamo 3 punti che è la cosa più importante che c'era oggi in palio. Era importante nella conferma del sistema di gioco anche la prestazione degli esterni, ecco, da quel punto di vista c'è stato un passo indietro nel primo tempo con Zárate, con Alvarez? Ma no, non è che c'è stato un passo indietro, ricordiamo che noi siamo andati in Turchia martedì e siamo ritornati alle 6 di mattina, insomma ci sono delle piccole cose che poi alla lunga pesano, no? Però ecco, chi è subentrato ci ha messo un pochino a prendere il ritmo giusto, anche perché Obi è più abituato a giocare sulla fascia fascia sinistra, Castagnos è più una punta centrale, per cui prima li ho invertiti e poi ho cambiato sistema di gioco proprio per cercare di scardinare, di tentarle tutte, per cui sono molto ma molto soddisfatto, anche se durante la partita il viso era di quelli che volevano vincere e che non ci riuscivamo. Questo Ranieri ha ragione, fa bene ad essere soddisfatto, anche perché oggi l'Inter trova una vittoria che secondo me sul piano del gioco non avrebbe meritato, però le grandi squadre fanno anche così. Interessante appunto notare i nomi dei tre giocatori che hanno dato punti molto pesanti all'Inter nell'ultima settimana, e sono Coutinho, Alvarez, Castagnos, Coppa compresa. Un Inter che si avvicina alla metà della classifica, aggancia proprio il Siena, classifica che dice Juventus 25, prove tecniche di fuga, ha scritto e detto qualcuno, vediamo cosa succede stasera con il Milan. Udinese 24, Lazio 22, Milan appunto al momento 21, Palermo 19, Palermo che continua a marciare fortissimo in casa, mentre in trasferta non raccoglie nulla. Roma e Catania 17 punti, Napoli 16, Genoa, Chievo e Parma 15, Siena, Atalanta, Cagliari, Inter 14 punti, Fiorentina 13, una posizione a questo punto molto pericolosa in questo weekend in cui rialzano la testa il Novara ed il Cesena. Fiorentina 13, Bologna 11, Novara 10, Cesena 9, Lecce 8 punti. Questa è la classifica. Intanto tensione anche a Roma, perché oggi si è saputo che negli spogliatoi del Friuli, dopo il 2-0 beccato dall'Udinese, sono saltati i nervi ad Osvaldo, che ha colpito al volto il giovane compagno di squadra Eric Lamela, quindi botte tra argentini. Oggi allenamenti, due si sono chiariti, ma in arrivo una multa salata e non sono esclusi, leggo da un'agenzia, ulteriori provvedimenti disciplinari a carico di Osvaldo da parte di Luis Enrique, che ha colpito, che ha dato un cazzotto a quanto pare. Non pare, è certo, a Lamela. Comincio con grande piacere, tra tutti questi temi, a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde, concordo con Alessandro Cesena, che invece via sms scrive 349 238 6666, questo è il numero, lo ripeto meglio, 349 238 6666, numero per gli sms. Alessandro che scrive: presidente del Napoli non perde mai l'occasione di stare zitto, mi pare che si contino sulle dita di una mano le volte che ha pensato prima di parlare, questa cosa del Rolex in tempi di crisi suona proprio male. A me De Laurentiis è estremamente simpatico, però questa volta forse gli è scivolata la frizione, perché dopo questo episodio della pistola puntata contro Janina Screpante, fidanzata, modella di Lavezzi, con l'orologio di marca cippato, non aveva molto senso dire che in un clima di recessione, cito le parole di De Laurentiis, non è consigliabile andare in giro con grandi macchine e orologi di marca, tra l'altro in città dove si sa che questi vengono rubati. Ma più che altro è interessante notare, no? È preoccupante più che interessante notare come ci siano tre episodi molto ravvicinati che riguardano le tre superstar del Napoli: prima Cavani con la rapina in casa, poi Hamsik alla cui compagna è stata puntata una pistola, è stata scippata alla vigilia della partita con il Manchester City. Ora c'è questo episodio che riguarda la fidanzata di Lavezzi, e c'è anche chi scrive. Leggevo prima un articolo sul sito del Sole 24 Ore che i blogger che assiduamente seguono il Napoli, per i blogger che assiduamente seguono il Napoli, la camorra ha preso di punta la squadra di Mazzarri e forse sta cercando di terrorizzare i tre tenori per indurli a lasciare la società azzurra. Sulla rete non manca chi sottolinea che le strane coincidenze che smentiscono una tradizione consolidata fin dai tempi di Maradona, infatti i giocatori del Napoli sono sempre stati immuni dai pericoli della città, ora qualcosa è cambiato. Naturalmente sono al momento supposizioni, certo sono tre episodi molto inquietanti in una sequenza abbastanza inquietante. Marco, mi scusi, da Treviso, e poi Mirko da Palermo. Marco, buongiorno. Sì, buonasera, gente, buonasera, mi sente? Sì, la sento. Sì. Nulla, io più che fare un intervento avevo piacere di farle una domanda. Sì. Secondo lei, per quale ragione un allenatore vincente storicamente come Guidolin non è mai stato preso in considerazione da nessuna squadra di vertice? Forse perché non si veste bene in panchina, non si mette le giacchette, le cravattine. Beh, Marco, però storicamente vincente Guidolin ha fatto e sta facendo una grande carriera in squadre di buona borghesia del calcio italiano. In alcuni casi è andata meglio, in altri meno bene. È certamente un ottimo allenatore, però credo che sia in buona compagnia, no? Tra quelli che non sono stati ancora presi in considerazione da grandi squadre italiane. Mi viene in mente uno su tutti, degli Orossi, no? Ma forse Guidolin ha fatto qualcosa di più. Sta facendo un miracolo l'Udinese, però ricordiamo che insomma, lavorare in un ambiente ideale su un'isola che non c'è come quella di Udine, non voglio sminuire i meriti di Guidolin, che sono tantissimi, però per un allenatore è un grande premio, un grande privilegio. Non è facile, perché non lo è, soprattutto costruire qualcosa, meccanismi così perfetti come quelli che ha l'Udinese. Però insomma, credo che il treno passerà anche per Guidolin, di cui si era fatto il nome ad esempio accostandolo alla Juventus. Credo che il treno passerà anche per Guidolin, ma credo anche che lui non sia consapevole del fatto di essere comunque alla guida a questo punto di una grande squadra del calcio italiano. Torno a ripetere, non penso che l'Udinese sia da corsa in termini di scudetto, però penso che possa rimanere lì davanti nelle posizioni di avanguardia del campionato italiano per diverso tempo. Sarà cruciale per l'Udinese, come l'esperienza delle squadre di Guidolin insegna, sarà cruciale il mese di gennaio. E penso che i primi di febbraio potremmo avere delle idee più chiare sulle reali chance, magari anche di Champions League, della squadra di Guidolin. Ci fermiamo per il traffico, vi vado a Palermo da Mirko, 800 24 00 24, numero verde. Roberto da Verona che manda un messaggio francamente incomprensibile per me. Parlare di Mutu è una vergogna, per il dio del calcio siete disposti a tutto. Questo mi lascia basito, perché parlare di Mutu, a parte che non capisco perché parlare di Mutu è una vergogna, per quale ragione, se poi me lo dice ne discutiamo. Ho semplicemente detto che oggi ha segnato due grandi gol che hanno dato la vittoria a Cesena, mi sembra cronaca, non mi sembra null'altro. Mirko da Palermo. Buonasera signor Genta. Buonasera a lei. Volevo farle tre domande. Prego. La prima, se non è il caso per il Milan, piuttosto che puntare su uno come Terrez, se non prendere un gran centrocampista, magari con che età, uno che in sostanza, no? Poi la seconda è Però Mirko un centrocampista litigante, come ho detto prima, no? Cioè uno che si metta in rotta con il suo club, no? O no? Beh, insomma, mi sembra che in tempi di crisi, no? Citavo prima quanto scritto da Alberto Costa, non è un pensiero mio, che pensiero però molto interessante, quello di Alberto Costa, secondo cui in tempi di crisi il Milan si mette a caccia dei litiganti, e prima Ibrahimovic che litiga con Guardiola, e poi Cassano che litiga con Garrone, adesso Tevez che litiga con Mancini. Il prezzo scende e magari l'affare si può fare. Al di là della battuta, un grande centrocampista, beh, magari sì, anche perché lei non ha torto, ma servirebbe un grande centrocampista, servirebbe un grande difensore centrale per la stessa ragione, e cioè che Nesta agli anni che ha, adesso fuori un mese, perché Van Bommel e Ambrosini e Gattuso che è ancora ai box e tutti gli altri e Seedorf hanno l'età che hanno, e quindi il Milan è certamente una squadra da rinfrescare in difesa, a centrocampo e magari anche in attacco. Dica. Poi se un suo parere sulla partita di mercoledì col Barça, e poi volevo sapere se ha letto il libro di Ibrahimovic e cosa ne pensi. Non ho letto il libro di Ibrahimovic, quindi ne penso poco, se non quegli stralci che sono stati pubblicati sulla Gazzetta. Mi riprometto di farlo, oppure di non farlo, non lo so, non ho ancora deciso se leggerlo o no. Però insomma, un po' mi intriga, quindi non penso attualmente nulla. Tant'è, non ne penso nulla del libro di Ibrahimovic al momento. Quanto all'arresto vale ciò che ho detto. Non mi ricordo la seconda domanda, ma magari Giorgio De Luca poi mi rinfresca la memoria. Stavo guardando parlare Davis Mangia, che vorrei sentire attraverso i microfoni di Sky. Ho preferito fare sta scelta, perché, insomma. Scusa, perché non parla bene la lingua o perché è proprio un modo di parlare? Ci sono un po' di problemi, ci sono stati un po' di problemi nel chiamarsi, nel sistemare delle cose, soprattutto in area di rigore. Ci stiamo lavorando, però nell'immediato io ho preferito fare sta scelta qua, insomma. Tra l'altro ha fatto molto bene, è stato bravo oggi. Billy, Ripescato dalla memoria intanto la domanda di Mirko, la partita giocata al Milan con il Barcellona. Barcellona che ieri ha perso 1-0 lanciando il Real di Mourinho. Io continuo a pensare che se con il Barcellona giochi a viso aperto, a chi ne fa di più non vinci mai nella vita. Credo sia stata magari una scelta obbligata, però più funzionale al modo corretto di affrontare questo Barcellona, la partita dell'andata in cui il Milan tentò di difendersi e poi riuscì a conquistare il pareggio che lo ha lanciato in Champions League. Saluto e ringrazio Marco Ansaldo, penna prestigiosa della Stampa. Ciao Marco. Ciao. Cosa ne pensi del modo di affrontare il Barcellona? Penso che tu abbia ragione, ma per fortuna non tutti la pensano come te e giocano a calcio contro il Barcellona e ci permettono di vedere delle belle partite, perché sennò sai che noia sarebbe vedere il Milan, ad esempio, appunto come quello del Camp Nou. Sì. La partita perfetta l'ha giocata l'anno scorso Mourinho in finale di Coppa del Re, non a caso vincendo, secondo me. Sì, ma parliamo anche della partita dell'Inter al Camp Nou, certo. No, cioè quello... È chiaro che una squadra del genere, se lasci campo e spazio, ti ammazza, però credo che comunque alla fine sia una squadra che anche quando la aggredisci e ti chiudi, male ti può fare. Ieri ad esempio Messi nel finale ha avuto l'occasione al gol, è stato sfortunato, se no finiva 1-1. Mi sembra peraltro che sia un Barcellona che non è quello delle passate stagioni e soprattutto che sta tentando delle soluzioni. Io infatti l'ho scritto l'altro giorno commentando la partita col Milan, cioè ormai questi pensano di essere così i nuovi messia e azzardano delle soluzioni tattiche che non si riesce a capire perché devono farle, tipo quella di giocare con una difesa a tre con Mascherano che è un centrocampista centrale, e si capisce che poi qualcosa devono concedere agli altri, quindi a volte gli va bene, a volte meno. È come se si sentissero talmente forti che per riequilibrare un po' le cose dicono vabbè, giochiamo con l'handicap, facciamo qualche stupidaggine così almeno diamo le chance agli altri. Cavallino handicap come ai tempi di Mike Buongiorno, però con la Real Madrid di Mourinho seconda stagione sbagliano se fanno quel calcolo lì, ma secondo me sbagliano e anzi ti dirò di più, secondo me sono davvero prove tecniche di fine ciclo, c'è qualcosa nel Barcellona, c'è un filo di debolezza intrinseca nel Barcellona che ancora non è chiaro da dove provenga, forse dal futuro, forse dalla possibilità che Guardiola vada via, forse dalla sazietà, forse da un'età che non è anagrafica ma è agonistica di questa squadra che comincia ad avanzare. Ma quello è possibile. La seconda cosa è che stanno un po' facendo l'errore che fece il Real Madrid dei Galacticos anni fa, cioè e sta facendo il Manchester City di Mancini, cioè compriamo tutti dei fenomeni davanti o comunque potenziamo chi sta davanti e non compriamo, non miglioriamo gli altri reparti, per cui la difesa adesso, torno a dire, è una difesa che fa giocare Mascherano e Busquets ormai quasi stabilmente in quella posizione, e non è che funziona tanto, no? come si dice in Lombardia, o se lei fa il tuo mestiere, no? Cioè, quindi, ognuno deve fare il suo mestiere e questo non è il mestiere di due centrocampisti. Un mestiere che invece da allenatore sta facendo molto bene Antonio Conte, ho letto con attenzione quanto hai scritto sulla Stampa di oggi, una Juventus che trova risorse un po' ovunque, no? Che riesce a sopperire alla stanchezza che è evidente di alcuni dei suoi interpreti chiave, come sono Marchisio che peraltro salterà la partita di Napoli, come Vidal che a me piace da morire ma ieri ha giocato un po' sottotono. La Juventus, Marco, ma lo dici anche tu, lo scrivi anche tu, ha vinto come fanno le grandi squadre, coraggio, sofferenza, carattere e anche un filo di culo, perché quel palo di Hernanes ci vuole e sta nel conto di una partita. La Juventus è riuscita a resistere a quel quarto d'ora della Lazio e poi ha vinto come fanno le grandi squadre blindando la partita. Mi sembra che Pepe sia un po' il simbolo di questa Juventus, di oscuro di questa Juventus, e l'autostima cresce. Sì, mi sembra che sia un'analisi corretta e Pepe lo è, ma anche Mata. Io ad esempio non avrei mai scommesso due soldi su Mata quest'anno, perché in un gioco fatto molto di palleggio mi chiedevo che cosa ci azzeccasse lui, e invece devo dire che negli ultimi due mesi è migliorato tantissimo ed è diventato veramente un attaccante. Che l'altra sera guardavo Dzeko del Manchester City e dentro di me dicevo ma io non lo cambierei mica, cioè voglio dire, io terrei sempre Mata piuttosto che Dzeko, nonostante, perché fa molte più cose. quindi questi sono tutti migliorati. L'unico appunto che io posso fare a Conte, che, nel quale devo dire che non voglio essere presuntuoso, ma in Conte erano anni che dicevo che poteva essere un buon allenatore per la Juventus, uno perché portava lo spirito della vecchia Juve, quella che si dice sempre noi andiamo e cerchiamo di essere i più forti, sì, in qualche modo. E due, perché parlandogli in questi anni da allenatore abbastanza frequentemente, mi aveva spiegato alcune cose che mi avevano veramente affascinato e convinto. Cioè, una delle quali era che se tu hai dei giocatori forti puoi anche lasciarli giocare un po' come vogliono, ma se tu hai dei giocatori scarsi, devi assolutamente, scarsi o mediocri, e la Juve tutto sommato non è che abbia dei fenomeni, devi insegnar loro esattamente che cosa fare, e a quel punto loro, facendo il loro compito, eseguono bene lo spartito. Sì. Conte ha dato tutta questa cosa qui. L'unico punto, secondo me, è che o ha sbagliato la campagna acquisti, lui insieme alla società, oppure non si fida a far giocare della gente che aveva fatto comprare, perché adesso la Juve è piena di ali e alette, certo, in tribuna. E in compenso manca, ad esempio, un sostituto vero di Marchisio e di Vidal, perché sì, devi girare con pazienza, che è un'altra cosa. Sì. Oppure adattare Giaccherini, come mi sembra che voglia fare Conte, al ruolo di interno, che secondo me non funziona. Ecco, l'unico appunto, mi chiedo perché gente tipo Elia, questa gente qui, che comunque sono costati dei soldi, non venga provata un po' di più. Certo. È vero che probabilmente lui dice adesso cerchiamo di mettere pieno in cascina e poi vediamo, e non cambiamo squadra, però al gioco lungo può diventare un peso. No, certo, è piena di ali e alette che sono inutilizzate e in questo momento inutili, ma anche in attacco ci sono i tre vecchi moschettieri praticamente fuori rosa, che chiamano un sacco di quattrini, sappiamo all'ordo una ventina di milioni di euro, però mi sembra che ci sia anche Del Piero che non si alza più, e ci sia Quagliarella che ieri è stato comunque inserito, che però sia poco funzionale al gioco di Conte. Dunque ci sono quelli punto e basta, cioè intoccabili, quelli Vucinic che fa il boia rimpiccato, e c'è Matri che è diventato imprescindibile. Gli altri sono lì, chiamano dei soldi, però servono a poco. No, ma gli altri tre si sapeva che sarebbe stato così, il problema è stato non riuscire a venderli. La differenza tra le ali e alette che dico io e i tre è che i tre erano una zavorra di cui la Juventus voleva liberarsi. Le ali e le alette le hanno comprate quest'anno. Sì. Anche l'anno scorso, Krasic compreso, no? E Krasic compreso. Ecco, Krasic è stata una mia grande cantonata, perché pensavo, dopo le prime partite, di rivedere finalmente le ali di quando ero ragazzo io, quelle che vanno fino sul fondo e mettono il cross, eccetera, e poi mi sembrava veramente un fenomeno, e invece poi ha dimostrato dei limiti abissali, insomma. Quagliarella, secondo me il problema non è tanto che non sia funzionale il gioco di Conte, perché ad esempio Quagliarella, il gioco che fa Vucinic adesso, lo può fare benissimo. Sì. Il problema è che mi sembra un giocatore che ha paura. Ah. È ancora lì che lo vedi che non entra deciso sul pallone, non è sicuro degli appoggi, mette male la gamba, corre male. Sì. È come se dopo l'infortunio non ha superato lo scoglio della paura. Esatto. Marco, ti chiedo ancora un appunto invece sull'Inter. Secondo te è casuale o ha un significato il fatto che Coutinho, che dà la vittoria all'Inter sul Cagliari, e poi Alvarez che segna il gol qualificazione a Trebisonda, e oggi Castagnossolo 0-1 a Siena? È casuale oppure no? O è nuova linfa che Ranieri è bravo a cercare e a trovare? O è un Inter dei giovani che sta nascendo? È casuale o ha un significato tutto questo? Potrebbe avere un significato, perché comunque sono giovani che hanno comprato credendoci, quindi diciamo che sono giovani che dovevano crescere, ma con del talento, almeno così si diceva. Io non ho visto l'Inter oggi, ho sentito le cronache, dicono che ha giocato piuttosto male, sì, e che quindi la vittoria è stata non meritava la vittoria, non meritata, e così via. Poi sai, il gol ci può stare. Alvarez, a me sembra, quando lo vedo correre, ricorda molto la corsa di Kakà, poi però non vedevo la stessa sostanza, adesso evidentemente un po' più di sostanza ce l'ha messa, però non credo che si possa puntare in alto partendo da questi tre giovani se il resto della squadra funziona male, non sì. vorrei che fossero dei fuochi fatui e che comunque l'Inter fosse costretta a pagare quest'anno la necessità di rivoluzionare davvero tutta la squadra sì. in suo, perché se no non credo che possa essere una squadra che torna a vincere come ha fatto negli ultimi anni, se sì. Non cambia uomini fondamentali. E su questo sono d'accordo. Grazie Marco, buon viaggio. Grazie. Lavoro. Grazie. Grazie a Marco Ansaldi, inviato della Stampa. Io in linea, Carlo da Torino, Matteo da Modena. Mi devo fermare? Mi fanno cenno di sì dalla regia. Carlo e Matteo, state lì, poi parliamo insieme. 800-24-0024, numero verde. E mi chiede ancora il risultato di Italia-Cuba di pallavolo, 1-3, l'Italia ha perso. Chissà che festa, invece, volevo dire io prima di parlare con Carlo e Matteo, in casa Dennis ieri sera, perché è festa tripla, perché... gol meraviglioso, peraltro quello del che sarebbe stato quando ha colpito il palo. Beh, è stato uno dei gol più belli del campionato, per insomma, chiaramente, no? Ha fatto una cosa pazzesca Dennis ha fatto una partita pazzesca ed è un giocatore incredibile. 10 gol in 12 gare per lui. Ieri sera ha segnato contro la sua ex squadra, quindi motivo di rivalsa aggiuntivo. E poi è stato un gol, quello di ieri sera, da 70.000 euro, perché ha già raggiunto il bonus previsto dal contratto con l'Atalanta, 70.000 euro per 10 gol. Ebbene, ci ha messo 12 partite e il tassametro continua a correre fino al prossimo bonus. Si parlava prima di Matri, ma Dennis, a proposito di grandi attaccanti che questo campionato sta offrendo. Carlo, buonasera. Sera, io sì, volevo collegarmi con quello che ha detto Ansaldo della Stampa. Sì. Il discorso degli acquisti della Juve, rispetto al passato è migliorata la situazione, c'è Pirlo, Matri, però continuano a fare degli errori strategici. Aggiungerei Vidal, ma i ragazzi stanno crescendo, lei dice. Vidal. I ragazzi stanno imparando, lei dice? Sì, però ci sono appunto questi oggetti misteriosi, continuiamo a comprare oggetti misteriosi o presunti campioni. Ci eravamo fissati con Stala che doveva venire all'ultimo giorno, se non ricordo male, Elia. È arrivato fanfare, trombe, eccetera. Mm. Magari è bravo, ma non sappiamo niente ancora. Quindi... Beh, di sicuro sappiamo che è costato qualche eurino. Esatto, quindi ci sono ancora alcune cose da limare rispetto alla tradizione della Juve che prendeva dei giocatori che costavano poco, Zidane, uno che mi viene in mente, ma tanti così. Ha detto poco, cioè ha detto nulla, no? Zinedine Zidane. Uno così, eh? Escobar è la bravura, non sta a vedere i mondiali o gli europei, sta ad andarli a vedere prima, secondo me. Sì. Però io sono contento. Cioè, mancherebbe anche... altro. Senta, ma qual è il suo atteggiamento? Quelli tutti gli juventini che si incontrano per strada e dicono e fanno segno: stiamo zitti, voliamo basso. Ma perché? Questo. No, lo so perfettamente il perché. Perché gli altri anni arrivavamo a Natale, ma primi, certo. Secondi, e allora sì. Dobbiamo superare almeno marzo per parlare. Quindi secondo me l'atteggiamento coperte non deve essere... Intanto noto prove tecniche da vecchia Juventus, no? Una squadra che comunque ha personalità, una squadra che si attira anche una certa dose di odio sportivo, è una squadra che comincia ad essere temuta come la vecchia Juventus, una squadra contro la quale si reclamano anche rigori come ha fatto ieri sera la Lazio, secondo me senza alcuna giustificazione, però... Vedo comunque personalità, insomma, sbocciare una personalità da vecchia Juventus. Cosa? Eh? Si vede anche l'odio della Juve nei confronti dell'Inter, adesso sembra che si è tornati agli anni d'oro per la Juve, quando l'Inter era questa di adesso. Quindi sembra che tutto stia andando bene. Tutto stia tornando alla normalità, almeno dal punto di vista juventino. Poi vediamo questo tavolo questo concilio di Nicea, no? Questo tavolo della pacificazione che Petrucci ha convocato il 14 dicembre sperando nello spirito natalizio. Io avrei qualche dubbio, ho qualche dubbio e me lo tengo sulla reale utilità di questa cosa. Poi intanto guardo la Juventus sul campo ed è quello che grosso modo mi interessa nel valutare questa squadra che sta crescendo moltissimo. Grazie Matteo da Modena, buonasera. Sì, buonasera. Senta, volevo anche riagganciarmi al vostro discorso che stavate facendo, che mi sembra proprio di rivedere l'Inter di 5 anni fa, che per me è quasi un incubo, perché in questi 5 anni mi ero abituato forse troppo bene. Insomma, volevo sapere un po' da voi, secondo voi... In che cosa? Cioè, mi pare che comunque l'ultima settimana dell'Inter non sia stata poi malaccio, no? Dicevo prima... Ranieri, poveretto, sta gestendo questa fine ciclo, no? Sta gestendo la crisi di governo di una squadra che sta che sta arrivando alla fine della corsa e sta cercando linfa nuova in giocatori che adesso possono essere utili. Non so quanto saranno utili, per qual è la loro grandezza assoluta, non lo sa nessuno, questo nemmeno Ranieri, e quanto potranno essere utili per una rifondazione inevitabile, perché comunque Coutinho sta provando a fare il suo, Alvarez, ripeto, sta provando a fare il suo, Castagnos oggi ha fatto il suo per la prima volta nella stagione, quindi piccole scintille, e l'Inter è chiaramente molto lontana dal vertice, è fuori dalla lotta a scudetto, e se volete ne parliamo, ma secondo me è così, e però sarebbe un colpo mortale, io credo, anche dal punto di vista economico, dal punto di vista societario, rimanere fuori dalla Champions League, perché costerebbe un mucchio di soldi a un Inter che deve ricostruirsi. Vado proprio a Siena da Massimo Sollazzini, che è il nostro corrispondente, ha visto questa gara, chissà se ha qualche spunto da aggiungere. Ciao Massimo. Sì, intanto proviamo a farla aggiungere al GS del Siena, Giorgio Perinetti, che qua con noi è una fatica, un po' una beffa per il Siena. Sicuramente sì, perché perdere all'ultimo minuto senza aver subito un mondo particolare dall'Inter, che è una grande squadra, avevamo cercato veramente di fermare questi Inter, siamo calati un po' nel finale, una normale, però insomma l'Inter non ha avuto grandi occasioni, ha trovato il gol, l'unica azione buona del secondo tempo, ha capitalizzato il 100% quello che ha fatto, non resta rammarico perché fare bene e vedere che non basta, purtroppo. E questo è il calcio, questa è la Serie A, però no, se continuiamo a fare queste prestazioni qualche volta la fortuna guarderà anche la nostra parte, allora sarà diverso. Sicuramente una battuta d'arresto per il Siena, ma quanto realisticamente è un'occasione di crescita per l'Inter oggi, al di là dei risultati? Ma il commento dei giocatori dell'Inter, dei tecnici dell'Inter riguardo a noi è stato solo: abbiamo avuto tanta fortuna. Se lo dicono loro, io credo che devo commentare. L'Inter crescerà, certo non è quella che ha perso a Novara, quella di oggi, è un'Inter più consapevole, che sta crescendo, però non è che con noi ha fatto granché, e il problema è che loro sono l'Inter, quindi cresceranno e faranno quello che devono fare, e noi oggi abbiamo avuto contro questi Inter poca fortuna e poca concretezza nel risultato, però penso che il calcio in Serie è così e va bene così. Grazie a Giorgio Perinetti. Carlo. Dicevo, Massimo, che la vera notizia è che l'Inter ha raggiunto il Siena in classifica, quota 14, ma questo per dire che è un Siena che oggi non meritava di perdere, come è stato sottolineato anche da Perinetti, da me stesso in precedenza, un Siena che oggi ha giocato un'eccellente partita, non meritava questa sconfitta, è un Siena che gioca molto bene, ma dall'Inter hai visto proprio nulla o qualche scintilla c'è stata? Allora, le uniche scintille obiettivamente le abbiamo viste nella prima frazione di gara, tra il 20° e il 30°, un paio di occasioni ficcanti, un cross di Alvarez con testa di Pazzini, l'unica palla da gol giocata da Pazzini oggi, finita di poco sopra la traversa, e poi l'occasione più clamorosa al 29°, un'uscita a vuoto del portiere Zene Brkic con Samuel, che ha avuto la palla per intaccare ma ha svirgolato e la palla ha preso invece la via del fallo laterale. Dopodiché di Inter ce n'è vista ben poca, contenimento nel primo tempo, il secondo tempo è stato veramente appannaggio del Siena, soprattutto nel primo quarto d'ora, quando almeno un paio di occasioni sui piedi di Calaiò gridano vendetta e sicuramente lasciano amarezza i tifosi del Siena questa sera. L'Inter è apparsa piuttosto rinunciataria anche la fase di gioco, piuttosto paga e disposta ad accontentarsi del risultato, però forse possiamo leggere un premio nella tattica che scelse di Ranieri, perché quando poi sul finire ha deciso di schierare Milito, mancano 10 minuti alla fine, il baricentro della squadra si è gradualmente alzato e poi è lì, in quell'ambito, che è nato il gol dell'1-0, sì, ad opera di un giocatore che obiettivamente fino a quel momento si era visto ben poco. Castagnos era stato schierato da Ranieri all'inizio del secondo tempo al posto di Alvarez. Sì. Grazie Massimo, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Alla prossima, grazie Massimo Sollazzini. Beh, caro Fabio da Savona, questo va bene, però c'è interesse di parte per lei che scrive: il Milan è nettamente superiore, dunque i gobbi si mettono il cuore in pace, forza Toro. Vabbè, queste sono così diatribe politiche, no? Tra tifosi del Torino, e quelli della Juventus. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Tranquillizzo Aldo da Fossano, che in viaggio con il camion vuole avere ragguagli sul Gran Premio del Brasile ora in corso. Dopo il traffico ci colleghiamo con Dario Ricci, che ci dice cosa sta succedendo nell'ultima corsa stagionale. Cristian dalla provincia di Pisa. Salve, buonasera signor Genta. Salve. Piccole considerazioni. Quest'anno è un campionato iper mediocre. Io sono un interista da 40 anni e credo che il primo sbaglio di Moratti sia stato quello, dopo la vittoria della Champions, di voler mantenere come fece al suo tempo il Milan tutti i giocatori senza privarsi di Maicon e Milito, che erano arrivati alla frutta. Mi perdoni, sono d'accordo anch'io. Sul campionato ipermediocre possiamo discutere finché vogliamo, non lo so. Però se parliamo di quell'errore di Moratti, sono d'accordo anch'io, ma lo diciamo dopo. Lei, se quella sera di Madrid gli avessero detto vendiamo Maicon, vendiamo Milito, vendiamo magari anche Giulio Cesar, non so se l'avrebbe presa bene. No. Dopo Giulio è facile. Cesar, ma Milito e Maicon sicuramente, subito. Lo dissi all'inizio io come interista da 40 anni. Sì. Questo senza problemi, anche perché tanto per fare peggior figura di quella che stiamo facendo da un anno e mezzo a questa parte, credo che fosse stato difficile immaginarla peggio. Giocare con vendere due giocatori, prendere 30, 20, 40 milioni di euro e prendere due giovani in gamba tipo Bale del Tottenham, un paio di centrocampisti veramente forti, un buon attaccante, visto che Milito è arrivato ai titoli di coda. Sì. E quant'altro, giustamente giusto vendere tu, perché una cifra del genere nessuno mai gliel'avrebbe più data. Due ragazzi giovani, un attaccante importante, due buoni centrocampisti. No, ma infatti, e ma è un Inter. Ma con ragazzi giovani. Con ragazzi giovani, ma di qualità. È un Inter che qualità, va rifondata. Ovviamente. È chiaro che adesso entra in gioco nella ricostruzione di questa squadra, entrerà in gioco comunque l'abilità. Dei dirigenti dell'Inter, perché dovranno comunque rifondare la squadra. Si tratta di andare a prendere giocatori, di fare operazioni come quelle che l'Inter ha fatto con Maicon, con Snyder, che ha fatto negli ultimi anni e che hanno portato l'Inter a vincere quello che ha vinto, cioè giocatori che comunque non sono costati un occhio della testa, giocatori che erano funzionali ad un progetto e che senza stare ad andare all'operazione Ibrahimovic e Toh. Però comunque l'Inter, questa squadra è stata costruita intorno ad operazioni del genere, quindi giocatori ottimi, ad un'età relativamente bassa e ai prezzi giusti. Grazie, non stiamo a parlare di immoralità. È immorale il bonus di 70.000 euro per 10 gol, quelli segnati da Dennis, cioè che scrive immorali in un momento come questo. Poi lasciamo stare l'immoralità, parliamo di invidia, perché questa esiste. Io sono molto invidioso di Dennis, che è un bravissimo giocatore di pallone, un bravo ragazzo, guadagna un sacco di soldi, ma non trovo, insomma, non mi va di parlare di immoralità per gli stipendi dei calciatori, perché sennò qui torniamo sui soliti discorsi. Sono lavoratori infungibili, gli stipendi le fanno le leggi, li fa la legge del mercato, e dunque guadagnano questi soldi. Io sono molto invidioso, ma l'immoralità lasciamola stare. Direi invece, ci è stato chiesto un aggiornamento sul Gran Premio, allora torno a collegarmi con Dario Ricci, che prima ci ha raccontato i gol e adesso lo fa con la corsa. Dario. Eccoci qua Carlo, siamo al 33esimo giro e c'è un capolista a sorpresa in questo Gran Premio di Interlagos che chiude la stagione, perché Mark Webber, l'altra Red Bull, non quella di Vettel che pure era scartata dalla pole position e che ha condotto fino al 26esimo dei 71 giri in programma, ma quella appunto di Webber. Perché? Perché per la prima volta nella stagione Vettel forse ha dei problemi tecnici, problemi seri al cambio, sono stati comunicati dal box della Red Bull al campione tedesco, e allora Vettel è stato costretto a rallentare e Webber lo ha passato intorno al 31esimo giro. In terza posizione un ottimo Alonso, un Alonso che oltre ad essere stato autore di una splendida partenza con cui si è portato subito al terzo posto, al decimo giro ha compiuto veramente un capolavoro con uno splendido sorpasso all'esterno su Button, e quarta piazza per Massa, quindi classifica classifica che ora vede Webber al 34esimo giro ancora in testa, Vettel a 3 secondi e 1, Alonso a 12 secondi dal battistrada e Massa ormai staccato con distacco da tappone pirenaico, direi 32 secondi, ma comunque Ferrari protagonista e poi Button, Hamilton, Rosberg di resta, Sutil e Kobayashi. Perfetto Dario, ci sentiamo più tardi, così teniamo il polso anche dell'ultima corsa della stagione di Formula 1. Vettel magari è un po' appagato, se avesse avuto questi problemi al cambio magari nei primi Gran Premi avrebbe movimentato un po' un gioco che non è mai stato in discussione a favore del mostruoso tedeschino della Red Bull. Glauco Trento, buonasera. Sì, buonasera Carlo e la ringrazio dello spazio. Grazie a lei. Io sono interista e pomeriggio ho visto la partita, no, dell'Inter su computer. Le volevo proprio chiedere a lei questa domanda, no? Al di là che i giocatori possano essere, tra virgolette, vecchi, probabilmente appagati dopo il triplete, quello che non mi spiega e che volevo chiedere a lei, non so se lei ha avuto possibilità di vedere la partita. Sì, insieme alle altre, quindi ho una percezione un po' distorta, le dico la verità. Però la cosa che delude molto noi interisti è vedere questo atteggiamento comunque alla partita, nella corsa, in tutto, praticamente nullo. Volevo chiedere a lei una domanda, se sapeva darci anche lei forse qualche risposta. Cioè, atteggiamento in che senso? Secondo lei l'Inter non corre? Cioè, ho visto 64% di possesso palla dell'Inter, no? Ma continuano con questi passaggi indietro, non c'è mai un'azione corale, non c'è una traccia di gioco. No, ma no, è vero Glauco, l'Inter non insomma va avanti con alcuni colpi, in questo caso dei ragazzini, perché l'Inter non ha un gioco consolidato, non ha tracce di gioco consolidate, è una squadra che non sta nemmeno benissimo fisicamente, è una squadra che continua a perdere, a recuperare poi perdere pezzi, rientra Stankovic, si fa male di nuovo Snyder che è ormai un lungo degente, poi Lucio adesso fuori un mese. È una squadra, ripeto, che per molti aspetti sta facendo i conti con la fine di un ciclo anche fisico, e dunque sono questioni che si pagano. L'Inter non ha un gioco consolidato, l'Inter è una squadra che sta provando a fare un po' di strada con quel che le resta. In questo momento bravo Ranieri a pescare linfa nuova appunto dei ragazzini. Quanto a questi ragazzini non so se quanto possano rappresentare il futuro di un Inter di vertice. Non mi sembra che nessuno di questi tre, tanto per rimanere in tema, sia un fuoriclasse assoluto. Sono tre giocatori interessanti, in particolare Coutinho, sono tre giocatori interessanti, però non so, per dirla chiaramente, quanti e quali di questi possa diventare un campione, tra Coutinho, Alvarez, che pure ha 24 anni, quindi non è esattamente giovanissimo, e Castagnos, che oggi abbiamo visto praticamente a fare la prima cosa importante da quando gioca nel campionato italiano. Ci possiamo aggiungere anche Obi. Insomma, sono diversi giovani su cui Ranieri fa bene ad insistere, perché hanno energia, no? E l'Inter ha un dannato bisogno di energia in questo momento. Però non so su quanti di questi si possa puntare o scommettere per un futuro di vertice dell'Inter. Marco, provincia di Milano, buonasera. Salve dottor Genta. Salve. Allora, il mio argomento di oggi è la squadra del Napoli. Sì. E io ho sentito più volte il suo parere sulla squadra, che era un po' dipendente da quello che era il cammino in Champions. Io forse, al di là di quello che pensano tanti tifosi, non sono così ottimista su questa squadra quest'anno, perché mi è sembrata troppo altalenante più nelle motivazioni piuttosto che nelle prestazioni fisiche, e lo dimostra un po' il cammino in campionato. Allora, a questo punto, ma in che senso qui nelle motivazioni, Marco? Questa è una squadra che ha bisogno di extra motivazioni per essere insomma brillante al 100%, per essere il Napoli vero. Ha bisogno di una spinta emotiva fortissima, no? Ha bisogno di giocare la partita in maniera, ripeto, molto emotiva, cosa che non è possibile fare due volte alla settimana, soprattutto per una squadra che ha una struttura ben precisa, 11 titolari, gli altri riserve. Non si può chiedere, non si possono chiedere due partite ad una intensità spaventosa come il Napoli ha giocato col Manchester City due volte alla settimana. Concorderà con me che quindi a questo punto la campagna acquisti fatta finora si è rivelata abbastanza un fallimento, lo stesso acquisto di Zemaeli, di Pandev, insomma non sono stati a livello almeno agonistico. Al momento no, ma aspetterei anche a condannare queste mosse di mercato. Inler è un signor giocatore e vabbè, questo qui stiamo scoprendo l'acqua calda. Su questo non c'è dubbio, credo. Quanto a Zemaili, che può essere il backup di Himmler, aspetterei un attimo a valutarlo. Quanto a Pandev, idem, perché Pandev lo conosciamo molto bene come giocatore, è arrivato al Napoli in pessime condizioni fisiche e poi si è fatto male. Credo che possa essere utile a questo Napoli. Dunque torniamo, Filippo Reggiori in regia, sempre Giorgio De Luca in redazione, il vostro numero verde che resta 800 24 00 24, messaggi 349 238 6666, c'è chi sottolinea sempre via sms che Nagatomo, Jonathan, Obi, Coutinho, Alvarez, Castagnos, Ranocchia, Pazzini e Schneider sono in età buona per ricostruire una squadra. Sì, però proviamo a capire dove l'Inter vuole arrivare. Io credo che Pazzini e Schneider siano, lo stesso Ranocchia, siano giocatori su cui si possa rifondare una squadra di vertice. Sugli altri invece ho i miei dubbi e me li tengo. Stiamo parlando sempre di una squadra di vertice, non semplicemente di questioni anagrafiche. C'è chi non invidia Dennis perché guadagna un sacco di soldi per giocare a pallone, io sì, non voglio parlare di immoralità, almeno per quanto mi riguarda, io parlo di invidia profonda che nutro nei confronti di questi. Ebbene, avete qualcosa da obiettare? 800 24 00 24, numero verde, torno a ripetere, gli stipendi di ciascuno di noi, ahimè, li determina il mercato. Simone da Verona, buongiorno. Buonasera. Buonasera a lei, dica. La domanda che volevo porre è, visto l'andamento dell'Udinese in classifica, le sue ottime prestazioni anche contro le squadre di vertice, non è che forse quest'anno riuscirà a ripetere, ad eguagliare il campionato dell'anno scorso, andando, diciamo, tra virgolette, a rubare uno dei tre posti Champions alle altre squadre più blasonate come Milan, Inter, Juve? Sarebbe divertente Simone, però io continuo a pensare che una risposta ce la darà il mese di febbraio, perché dall'Udinese ci si può anche aspettare, l'Udinese che ha iniziato, non dimentichiamo, la stagione prestissimo con quella preliminare pieno di malasorte contro l'Arsenal, l'Udinese ha iniziato prestissimo la stagione e si può pensare, senza essere impuri, che l'Udinese possa avere un calo tra dicembre, gennaio e febbraio, insomma. Mi aspetto un leggero calo da parte della squadra di Guidolin, se poi questo non avviene e mantiene la stessa velocità di crociera, certamente sì, perché comunque l'Udinese è una squadra vera, cosa che la Roma, tanto per andare a guardare il competitor più recente, non è ancora. Roma è caduta al primo esame vero dopo un buon periodo, e la differenza tra l'Udinese, che è una squadra vera, solida, con delle idee ben precise, e la Roma, che non lo è ancora, mi sembra evidente, al di là dei nervi che saltano. Anche questo non mi pare un bel segnale. E del cazzotto in faccia di Osvaldo al giovane Lamela, confermato, con provvedimenti in arrivo per Osvaldo, lite tra argentini, dunque, alla Roma. 800 24 00 24 numero verde, Luigi da Reggio Emilia. Pronto, buonasera a tutti. Buonasera a lei. E volevo chiedere un consiglio, un giudizio tecnico da parte sua. Io sono un tifoso interista, premetto. Sono andato a vedere Inter-Cagliari e poi oggi ho guardato di nuovo anche la partita tramite televisione. Sì. Io, secondo il mio punto di vista, all'Inter mancherebbe soltanto un altro al posto di Schneider, un centrocampista che illumini il gioco, e poi secondo me è un difensore e un centrocampista che corre. A parte che il fatto che trovare uno come Schneider non è facilissimo, ma perché l'ha già giubilato? Non vuole più? No, perché è inutile che fa due partite e poi sta fuori un mese sì, e mezzo, secondo il mio punto di vista, perché io ho visto la partita. L'Inter ha il gioco, non dico come il Barcellona, per l'amor di Dio, no, però un gioco che non è vero. Non è vero, certo, cioè, però non butta via la palla, avrebbe bisogno di un fantasista di mezzo a questi, sì, giocatori. Sì. Secondo me un giocatore in poche parole che abbia la qualità e la costanza di giocare sempre. Inutile che abbiamo Schneider che ti fa due partite e poi sparisce perché si infortuna in continuazione. Beh, questo è vero, questo è un dato oggettivo, il fatto che Schneider sia ormai un lungo degente, però io credo che, insomma, non è che l'Inter ha un gioco, l'Inter è una squadra che ha i giocatori e il talento necessario e l'esperienza necessaria per non buttare via i palloni, quindi per giocare un po' sulle debolezze degli avversari o sui suoi punti di forza. Non è raro che costruisca però gol attraverso una manovra corale, crea dei gol con dei lampi che restano isolati. Insomma, questa squadra non mi sembra che abbia un gioco ben preciso, ben identificato. Torno a ripetere, è anche una questione di interpreti, perché Perché Ranieri, come detto, sta provando a gestire la fine di un ciclo ed è l'allenatore giusto per fare questo tipo di lavoro, e sta provando a cercare risorse altrove, cioè sui nuovi acquisti, sui giocatori che ha a disposizione. Ora sono curioso di vedere se anche l'Inter si muoverà a gennaio e in che modo si muoverà. Mi sembra che molte siano lì intorno al nome di Tevez, che è un giocatore che continua a dire secondo me abbastanza sopravvalutato. È un giocatore che ha fatto una carriera piuttosto strana, è un giocatore che ha inseguito sempre, guidato da un procuratore molto bravo in questo, più i soldi rispetto alle esigenze calcistiche di una carriera di vertice, e è un giocatore da carattere molto difficile, e soprattutto è un giocatore che guadagna una montagna di quattrini. Ora non so se dalle nostre parti, questo sì, ma non sto parlando di moralità o di altre cose di questo tipo, di questi tempi non so quanti dei nostri club siano in grado di garantire 8 milioni l'anno netti a un giocatore come Tevez. Sento dire che è inseguito dal Milan, dalla Juventus e anche dall'Inter, perché Ranieri ha detto ci siamo anche noi nella corsa ieri in conferenza stampa. Bene, auguri a tutti, però non so se questo possa essere il giocatore in grado di risolvere così all'improvviso i problemi di queste squadre. A mio parere il Milan, che dopo la disavventura di Cassano ha bisogno di un giocatore offensivo, farebbe meglio a cercare una prima punta, cosa che Tevez non è, però sono opinioni personali. Ezio da Napoli, buonasera. Buonasera, io la seguo spesso. Bene. E volevo, sono un tifoso del Napoli, e volevo chiedere a voi... Ho cambiato la domanda a volo. Sì, eh? però mi abbassi la radio, perché non sento né quella vecchia né quella nuova di domanda. È vero, volevo domandarvi se fa il Napoli, fa bene a non far giocare Mascara. Beh. E se il Napoli ha fatto bene a vendere a Dennis. Ecco, la seconda mi sembra una domanda più interessante. Fa bene a non far giocare Mascara, Mascara è una riserva e quindi quando giocano i titolari Mascara sta seduto. Credo sia un giocatore che per il gioco del Napoli vada bene, quindi sia un giocatore non preso a casaccio, perché il Napoli ha un tipo di gioco molto particolare con Cavani che fa la prima punta, non essendo una prima punta, che ha anche compiti di ripiegamento, di copertura, eccetera, eccetera. Quindi credo sia un giocatore funzionale. Quanto al fatto se abbia fatto bene a vendere Dennis, questo mi sembra un bel domandone, che io giro direttamente a chi Dennis lo ha portato prima in Italia e poi ora all'Atalanta, cioè Pierpaolo Marino, direttore generale dell'Atalanta. Buonasera. Buonasera a voi. Tanto mi permette di fare i complimenti per questo giocatorone che è Dennis. Grazie, ma veramente... sta facendo delle cose straordinarie e io la ringrazio di questi complimenti. I ringraziamenti li fa Dennis inchiostrando il tabellino tutte le domeniche, mi pare. Quanto al discorso, Napoli ha fatto bene a vendere Dennis, e questa è una bella domanda. Dennis è un giocatore che però chiedeva campo, cosa che all'Atalanta ovviamente ottiene. Sì, però va anche detto che quando io l'ho portato in Italia non è che ci fosse Cavani in quel momento... al Napoli, quindi diciamo che c'era Salaceta, poi diciamo io credo che insomma forse poteva avere un po' di fiducia in più, poi credo che una grande squadra debba saper gestire più campioni, quindi, sì. Quindi io ad esempio ho visto che l'Udinese l'ha utilizzato bene l'anno scorso Dennis, ma anche nel Napoli quando subentrava faceva sempre gol. Io credo che forse, io dico che il giocatore per esprimersi ha sempre bisogno di sentire una fiducia che sì. A volte non è solo quella di giocare tutte le domeniche, ma proprio di avvertire che non ci sia il fatto che entrando in campo magari sbagliare un pallone e si pregiudica la considerazione di tutti. Certo, poi è chiaro che il quasi gol che ha fatto ieri sera, che è stato un gesto tecnico pazzesco, lo fa un giocatore che ha una grande fiducia in quel momento, e Dennis francamente è on fire, come dicono in America. Senta, io le posso chiedere un attimo di pazienza, che abbiamo il traffico in linea, subito dopo le faccio un altro paio di domande a Pierpaolo Marino, direttore generale dell'Atalanta. Ringrazio di nuovo Pierpaolo Marino, direttore generale dell'Atalanta, collegato con noi. Stavamo parlando di Dennis, ma vorrei parlare anche di rabbia. Mi dice quanto è stata la sua per quel gol di Cavani ieri sera al 95esimo? ma sicuramente più che rabbia, delusione, perché quando da quando c'è la regola dei tre punti, passare dalla vittoria ormai quasi certa al pareggio, uno rimette due punti, mentre prima se ne rimetteva uno, e due sono tanti di punti da perdere a tre secondi dalla fine, e poi in un extra time. Sì, e ne avreste avuti più del Milan, perché contando quei sei famosi, l'Atalanta ne ha fatti 20 fin qui ed è la quinta forza del campionato. Sì, sì, poi se ci mettiamo il rigore sbagliato da Denis con l'Inter al 92esimo, sì, e questo episodio di ieri, sarebbero altri 4 da aggiungere. Quindi, il rammarico. Lei dice: i conti fateli voi. Ma quanti margini di miglioramento ha ancora secondo lei, Denis? Ma di miglioramento rispetto a questo sarebbe mostruoso, però io che lo conosco da quando giocava nell'Independiente, dico che è un giocatore che ha destro, sinistro, anche se il destro è prevalente, ha capacità tecniche notevoli, ha dei piedi buoni ed ha un fisico da sfondatore con una grande elevazione, cioè è un centravanti veramente completo. E oggi forse ha raggiunto anche la piena consapevolezza dei propri mezzi e la conoscenza del campionato italiano, che forse quando è arrivato ha fatto fatica. Bisogna aver fiducia in questi giocatori, poi gli attaccanti nel campionato italiano hanno vita dura e bisogna dargli il tempo. Certamente. Io ricordo nella mia carriera di aver portato Ravanelli giovanissimo all'Avellino a 19 anni, Iaquinta giovanissimo all'Udinese, Carnevale al Napoli, e hanno avuto sempre un anno di contestazione all'inizio, quindi non è facile, per la verità, esplodere nel campionato italiano. Guardi che mi ha raggiunto anche un suo amico, nonché mio amico, come Giuseppe Cruciani. Ciao Giuseppe! Ciao, con chi sei? Che non sento. Pierpaolo Marino, esatto. Ciao Pierpaolo. Ciao Giuseppe, buonasera, ciao, un piacere risentirti. Ciao. È Cruciani che ha fatto la maratona di Firenze, quindi sarà un po' stanco. Cosa vuoi chiedere a Pierpaolo Marino, Giuseppe? Beh, innanzitutto quanto è arrabbiato, perché... L'ho già fatto io, cambia domanda. L'hai già fatto te, allora ti chiedo una cosa delle mie a Pierpaolo, tanto bravo, mi conosce Pierpaolo. Pierpaolo, ma ha fatto bene con l'Antuono a fare quella sostituzione? L'hai fatta pure questa? No, questa no, però l'ha fatto un allenatore, ecco, Marino, se la, un ascoltatore. Marino, se la prende con il suo allenatore, ha fatto un cambio inutile, scrive un ascoltatore. Ho capito. Un cambio... Sì, la controprova non c'è mai, e poi comunque io mi rifiuto di analizzare tutto quello che è successo in quell'azione e quello che è successo in quei minuti, perché io devo solo dire grazie a Colantuono e ai giocatori per quello che hanno fatto in questo scorcio di campionato, quindi io voglio solo ringraziare per la partita di ieri e non vado ad analizzare con i se e i ma, perché poi magari se non avesse fatto delle sostituzioni e il gol fosse venuto di ugualmente, staremmo tutti a dire che poteva perdere tempo sostituendo qualche giocatore, quindi nel calcio la controprova non c'è. Sei soddisfatto, Giuseppe? Va dato solo atto a Colantuono di fare un gran lavoro. No, assolutamente, questo è corretto, non abbiamo la controprova. Mi è sembrata un po' strana la spiegazione che ha dato, volevo far prendere gli applausi a Denis, uno vince la partita 1-0, secondo me non pensa a queste cose, ma insomma ci sta e non abbiamo la controprova. Certo è stato sfortunato, no, volevo dire a Pierpaolo che ma insomma sarà la centesima persona che glielo dice, che io invece, al contrario di molte persone, non avevo dubbi all'inizio sull'Atalanta, perché so come lavora Pierpaolo, l'ho conosciuto in un anno e l'ho apprezzato tantissimo per la sua umanità e per il modo in cui si relaziona alle persone e per la sua professionalità. So benissimo come va a pescare i giocatori, io sono acquista di Morales pur senza conoscerlo, naturalmente non avevo dubbi sul fatto che insomma su 100 giocatori che prende Pierpaolo ne sbaglia, quanti ne può sbagliare? 10, insomma, diciamo la verità, Pierpaolo. Sì, grazie, io forse ne avrò sbagliati anche qualcuno in più, sei stato generoso su 100, però guarda, è difficilissimo effettivamente portare un giocatore dall'estero in Italia, perché tante cose concorrono. Io ricordo sempre che il grande Angelillo, che ho avuto la fortuna di avere come allenatore all'Avellino in Serie A, in un bellissimo campionato in cui ci salvammo con l'Avellino, e Antonio mi diceva, dice, per la campagna acquisti fai tu, fammi conoscere il giorno prima la moglie del giocatore. Con questo diceva tutto, perché dice, a volte tu puoi prendere anche il giocatore buono, ma poi i fattori sono tanti, anche se non ha una vita familiare perfetta, può poi non esplodere, magari era anche un giocatore utile. Senta, io direttore, prima di salutarla invece volevo fare una domanda magari anche un po' difficile, però lei conosce molto bene l'ambiente di Napoli, quindi magari può dare una risposta interessante. A proposito di moglie dei giocatori, questi tre episodi che riguardano Cavani, Amsic e Lavezzi a stretto giro di posta, e questi episodi di criminalità di cui sono stati oggetto, come li valuta? Questo è un bel problema, perché cioè, effettivamente che si abbiano i tre episodi tutti uno dietro l'altro non è una cosa piacevole da sentire, e io spero che sia solo casualità naturalmente, però effettivamente io devo dire che negli anni del primo scudetto noi sapevamo di essere l'orgoglio di Napoli e nessuno poteva toccarci effettivamente, cioè questo fatto che ora si vada sui familiari dei giocatori, che poi le macchine, le automobili di questi giocatori sono conosciute, insomma, mi pare strano, perché non appartiene alla mentalità dei tifosi napoletani, e per i tifosi napoletani i giocatori sono intoccabili, e quello certo. Che è successo mi ha sorpreso molto, onestamente. La ringrazio, direttore, alla prossima, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a Pierpaolo Marino. Certo, questo è un bel tema, anche per te magari, Giuseppe. No, assolutamente, infatti volevo chiedere a Pierpaolo una cosa, ma è andato via. Se negli anni in cui è stato a Napoli, tanti anni in cui è stato a Napoli, ha ricevuto un no per le questioni ambientali, perché credo che alla fine questo sia il problema vero. Che si pone di fronte, che c'è davanti al Napoli adesso, cioè episodi che non sono isolati evidentemente e che sono anche nuovi rispetto al passato, come diceva Pierpaolo, pongono un problema per la campagna di trasferimento, perché insomma è difficile, a parità di condizioni, a parità di offerta magari con un'altra squadra, in un posto più tranquillo tra virgolette, adesso non dobbiamo esagerare, perché ricordo che anche Fedorf a Milano ha ricevuto. Però sai, quello è un episodio isolato, questi sono tre in dieci giorni, sono tre in dieci giorni che magari possono, tre indizi fanno una prova, magari anche no, però non si può spiegarla come ha fatto De Laurentiis, beh, non vadano in giro a far vedere i Rolex, perché in tempi di recessione questo è pericoloso. Però il presidente De Laurentiis ha detto una verità scomoda. Cioè il fatto che la fidanzata di credo di Lavezzi in questo caso vada in giro per il centro di Napoli, certamente in una città come Napoli, che è inutile insomma nascondercela, ha dei problemi di criminalità superiori a quelli che ha magari Brescia o a quelli che ha magari la stessa Milano, e con un orologio, un Rolex di quel tipo, cioè non è una genialata, insomma, diciamola questa, questa insomma, questo ma questo in valore assoluto no, però se lo stesso Marino ha detto prima, in altri tempi non li toccava nessuno. Ma adesso se ne fregano, io penso che se ne fregavano anche allora, oppure c'erano dei passi ben precisi per non toccarli, e per non toccarli non è che era gratis, sì. non si toccavano i giocatori perché c'era un altro modo per ricompensare certe persone, sì. Non dico da parte dei giocatori, magari da parte dei vertici della società, sì. Adesso queste cose sono per fortuna e dunque non c'è nemmeno questo tipo di protezione, cioè non è che per amore non toccavano i giocatori del Napoli non venivano toccati nel passato per altri motivi, adesso la situazione è un po' più liquida, per fortuna non ci sono questi rapporti con certi ambienti e dunque i giocatori sono esposti, certo dovrebbero essere un po' più prudenti, su questo non c'è dubbio. 3:57:10, ho dato prima per tempo il risultato della tua maratona, anche perché me l'hanno chiesto gli ascoltatori, maratona di Firenze. La zona di Firenze è molto bella come al solito, splendida giornata rispetto agli ultimi anni, tempo, vabbè, ma insomma non importa a nessuno il mio tempo, insomma se vuoi. Vabbè, me l'hanno chiesto, io ho risposto, sì. È uscito un'agenzia, non l'ho detto. No, ma insomma maratona come al solito dura, ma io corro per divertirmi, io corro non per fare un risultato agonistico, che alla mia età sarebbe quasi ridicolo, ma insomma per per una bella giornata di sport, e devo dire quest'anno, rispetto all'anno scorso, un nubifragio pazzesco, Firenze è stata come al solito una città meravigliosa, baciata anche dal sole. Si è divertito, insomma? Molto, moltissimo. Ieri sera magari un po' meno? Ma ieri sera io non capisco le proteste di Reja, francamente. Non adesso, capisci? Scusa, non ho sentito. Non capisco le proteste di Reja. Nemmeno io per quello. No, beh, sì, io e te spesso siamo d'accordo, per cui non capisco le proteste di Reja perché al di là dell'episodio singolo che si può giudicare, secondo me non era rigore, insomma, dire che la Lazio meritava il pareggio mi sembra un po' troppo. Cioè, la Juventus ha giocato una partita molto autoritaria nel primo tempo, io ho visto una Lazio, a parte qualche cosina all'inizio, sostanzialmente fino alla prima occasione di Rocchi, inesistente. Dopo certo le occasioni di capitano perché la Juventus continua a giocare, però la Juventus è stata una forma di grande autorità e di superiorità, direi netta, sulla Lazio, per cui sono proteste che non capisco. Poi capisco invece che bisogna caricare l'ambiente, non bisogna deprimerlo. Però Juventus, che ha meritato la vittoria, su questo sono d'accordo, e aggiungo, ha giocato da squadra che farà le prove tecniche per essere una grande squadra, no, tutto compreso, sì. Forse una squadra già da scudetto, secondo me sì. Certo, la partita di martedì a Napoli, bisogna vedere la Juventus come reagirà alla prima sconfitta, che comunque arriverà, dovrebbe arrivare, insomma, più o meno sì. Auguro di posi la Juventus di arrivare a fine anno senza sconfitte, e bisogna vedere appunto le reazioni alla prima sconfitta che non conosciamo, e la Juventus, anche una Juventus senza Pirlo, anche se poi ieri era a mezzo servizio, per cui era praticamente senza Pirlo. Certo, l'assenza di Marchisio martedì a Napoli sarà pesante, insomma ci sono ancora diverse incognite. Certo, questa straordinaria condizione fisica certificata dal fatto che la Juventus ieri negli ultimi 10 minuti teneva il campo benissimo, non so quanto potrà durare, speriamo per i tifosi della Juventus che duri tanto. Però certo, le squadre di Conte negli ultimi anni hanno, quando Conte ha finito un campionato a Bari, a Bergamo, a Bari, a Siena, avuto qualche passo, però potrebbe essere un'altra storia. Un'ultima cosa, Giuseppe, questo tavolo della pace del 14 dicembre in clima prenatalizio, forse Petrucci, che lo ha convocato, spera nel miracolo del Natale, o è una mossa piena di demagogia? Ma no, io penso che sia una mossa che nasce da impotenza della federazione di risolvere questo problema, e dunque il CONI ha preso in mano, il presidente Petrucci ha preso in mano la situazione. Le norme sono che si può stiracchiare da una parte e dall'altra, tutti hanno paura di prendere una decisione su quel famoso scudetto del 2006, per non parlare di quello precedente, e per non parlare ancora di calciopoli, dove ancora ci sono, siamo in attesa di eventi definitivi dal punto di vista penale, e dunque credo che sia un tentativo corretto da parte del CONI. Certo, bisogna vedere con quale spirito ci si arriva, se l'Inter ci arriva con uno spirito in cui non c'è nessun tipo di mediazione è possibile, allora è chiaro che il punto fondamentale è la rinuncia allo scudetto del 2006. Se l'Inter non ci arriva nemmeno con questa con questo spirito, con questa possibilità, non vedo quale tavolo possa essere. Sì, certo, da una parte l'Inter non rinuncia a quello scudetto, dall'altra parte la Juve dice: io mi siedo, però chiedo l'risarcimento dei danni, e quindi no, da questo punto di vista non ci sento. Mi sembrano due posizioni sulle quali c'è poco da mediare, anche con lo spirito natalizio. Grazie Giuseppe, non lo so, dimmi. No, non lo so, cioè magari invece la Juventus potrebbe rinunciare a qualche ricorso che ha già in atto, ottenendo un risultato, non so, cioè le sorprese sono sempre possibili. Agnelli mi sembra una persona pragmatica che vuole ottenere sicuramente un risultato per la sua storia, e potrebbe essere una mediazione. Certo, se l'Inter rinuncia allo scudetto 2006 è impossibile. Stasera controcampo? Sì, certo, come al solito. Certo, come al solito, però un po' chiedere a Batantuono se il Milan davvero va cercando i bad boys, come scrive Alberto Costa, e Ibrahimovic che si scazza con l'allenatore, e poi Cassano che litiga con Garrone, adesso Tevez che litiga con Mancini, magari i prossimi a Balotelli, magari pilotato. Ti sento poco, sì. Ma meglio così. Eccomi, ma a Batantuono però stasera non ci sarà, perché sta girando un film. Chiedi a me se il Milan ha bisogno di Tevez, se ti rispondo no, neanche la Juventus e neanche l'Inter, secondo me. Domanda che rimane sospesa. Grazie a Giuseppe Cruciani, ci fermiamo in attesa di riprendere a parlare con voi. 800 24 00 24, so che come sempre ci sono molti ascoltatori che si sono prenotati. Tornerei su una delle spigolature della giornata, anzi no, aspettiamo un attimo, facciamo prima un collegamento, credo con Dario Ricci per il Gran Premio che sta finendo. Eccoci qua Carlo, siamo proprio alle ultime battute a Interlagos, ultimi metri per Mark Webber che va a conquistare l'ultimo Gran Premio dell'anno e anche il suo primo successo stagionale davanti al compagno di scuderia e campione del mondo Sebastian Vettel, staccato di oltre 14 secondi, un Vettel che ha avuto problemi al cambio ma che poi è riuscito comunque a rimanere in gara e a difendere la seconda posizione e di fatto è un omaggio quello che Vettel fa al suo fido scudiero in questa corsa al titolo, terzo posto per Button che così conquista anche il terzo posto mondiale ai danni di Fernando Alonso, un Fernando Alonso che sta per chiudere al quarto posto, ciliegina sulla torta di una stagione quanto mai amara, anche i problemi all'ala mobile, pochi istanti fa Alonso ha comunicato ai box l'ala mobile non funziona, insomma è veramente stagione tutta da dimenticare, quella della Ferrari, quinto posto per Massa, staccata di oltre un minuto. Perfetto, grazie, perfetto neanche tanto, però grazie Dario Ricci, perfetto neanche tanto dicevo per la Ferrari, si chiude come normale in la stagione, cioè con una vittoria della Red Bull, stavolta non di Vettel ma di Webber. Stavo rivedendo intanto il pazzesco gesto tecnico di Dennis ieri sera in Napoli-Atalanta, traversa piena colpita, se no sarebbe stato un gol identico a quello ormai storico e famoso di Van Basten contro l'Unione Sovietica agli europei dell'88, identico, cioè con la palla che arriva da destra e il colpo al volo di Dennis, in quell'occasione per Van Basten fu gol, in questa per Dennis è stato traversa. No, dicevo, volevo tornare ad una delle storie, delle piccole storie molto belle di questa domenica, di questo weekend di calcio, che è stata quella scritta ieri sera da Raffaele Rubino, che ha segnato non solo il gol della vittoria del Novara sul Parma come il copione vuole, no? Come la grande scenografia del calcio vuole, gol della vittoria, ma soprattutto gol da record, perché è l'unico giocatore della storia del nostro calcio ad aver segnato con la stessa maglia in tutti i campionati dalla C2 alla Serie A. Voglio sentire cosa ha detto ieri con Sky dopo, farvi sentire cosa ha detto ieri con Sky dopo la partita. Come descrivere nella maniera più giusta la mia emozione? Non trattenere le lacrime sarebbe stato falso, è quello che provo, quello che sento, è quello che speravo. Raggiungevo, sto cercando di battere tanti record con questa maglia perché dopo tanti anni sono mie soddisfazioni che rimarranno nella storia di questa città e nella mia storia, quindi me le porterò dentro di me per sempre. E in più spero che di contribuire al massimo per raggiungere l'obiettivo. Da una piccola grande storia di questo weekend a una storia importante invece, che è quella che arriva dalla Spagna. Ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Ormai io vedo il tuo nome scritto sul monitor e mi viene in mente come è vestita Ilaria D'Amico, ma anche perché me lo chiedono tutte le volte gli ascoltatori. Oggi è vestita in maniera suoresca, direi, tailleur nero col pantalone tutta nera con una maglietta sbracciata ma molto castigata. Metà di tessuto, metà di pelle o similpelle, tant'è, insomma. Ti piace in versione stilista, insomma? No. Sì, abbastanza. Abbastanza. Posso fare di più. Sto studiando. Sto studiando. Ma il Getafe che combina? Il Getafe, più che altro io direi capitalizza i suggerimenti di Mourinho. Sì, il Getafe, no, diciamo l'unica cosa è che l'anno scorso anche il Levante, che era la squadra allenata da Luis García, che quest'anno allena il Getafe, aveva in qualche modo messo in difficoltà il Barcellona, che però poi ovviamente se l'era cavata, e al contrario del Real Madrid che invece a Levante ci aveva lasciato le penne con un pareggino. L'allenatore ne capisce, però ieri sera per me, cioè il Barcellona ha palesato grandissima stanchezza e secondo me un po' di stanchezza mentale che deriva da questo massiccio turnover a cui lo costringe Guardiola e anche a questi continui un turnover tattico. Ieri sera sono tornati con la difesa a 4 però insomma ci avevano Puyol in tribuna, Fabregas in tribuna per dolori muscolari che però erano diciamo sconosciuti fino all'altro ieri, e sono partiti con Sanchez e Villa a fasce invertite usando poco le fasce, Dani Alves bloccato dietro. È un po' snaturato anche quello che poteva essere il gioco del Barcellona. Sì. Poi, quindi ha ragione Marco Ansaldo che prima diceva il Barcellona non ha una gran bella cera, sta un po' troppo cincischiando con i moduli, Guardiola sta un po' troppo giocherellando coi moduli e con le invenzioni da Mascherano, centrocampista ormai stabilmente al centro della difesa del Barça. Insomma, Barcellona che un filo di così di preoccupazione magari ce l'ha anche addosso. Sì, perché allora intanto ovviamente è tutto sulle spalle di Messi, quindi vedi, ieri sera al 93esimo ha preso il palo contro il Siviglia, al 93esimo ha sbagliato il rigore, ecco qua che se ne vanno via tre punti, no? Per sì. Dire, sono due punti in casa e un punto in trasferta. Però perché appunto è tutto su di lui, se loro sono stanchi e guardano giustamente, questo è un uomo da 51 gol in 52 partite nel 2011, a chi la dai la palla? E tutto questo secondo me nasce un po' dall'acquisto di Fabregas, perché è chiaro che nel momento in cui arriva Fabregas, dove lo mettiamo? E questo si era detto anche d'estate, no? Dove inseriamo Fabregas in questo Barcellona, come per esempio il stesso problema che ha Del Bosque, dove lo mettiamo in nazionale, dove spesso Fabregas fa panchina. Per farlo Fabregas, sì, Guardiola si inventa questa difesa a tre, che ogni tanto funziona, ogni tanto no, dipende da chi sono gli elementi. E, c'è un dato per me interessante, nelle 9 sconfitte di Guardiola, perché poi ricordiamoci che c'è una sconfitta del Barça, è qualcosa di veramente inquantificabile, perché in 3 anni e mezzo ha perso 9 volte, quindi quando succede è molto strano. In 6 delle 9 sconfitte Puyol non c'era. E questo secondo me è un dato interessante, perché ovviamente sta invecchiando il capitano, però il capitano è sempre lui ed è può giocare a 3, a 4, dà una sicurezza che altrimenti ogni tanto viene a mancare, ogni sì. Molto tanto. Sì. E, adesso il problema è che sono 6 punti dal Real Madrid e c'è lo scontro diretto tra 2 settimane. Se dovesse vincere il Real Madrid... il campionato più o meno si chiude, insomma, a 9 punti la vedo sì. Dura da recuperare, altrimenti rimandiamo la chiusura ma con lo stesso esito, perché secondo me quest'anno il Real Madrid è una macchina pazzesca. Sì, permettimi solo di spendere una parola per l'Atletico Madrid, che è veramente una squadra che meriterebbe puntate e puntate. Perché io un suicidio come quello di ieri raramente l'ho visto, eppure di partite ne guardo, perché ieri sera finalmente il Real Madrid era in difficoltà nel sì. Derby con l'Atletico, no? L'Atletico non vince, anzi sì, più o meno lo perde sempre, aveva perso gli ultimi 5, non vince dal 99, si presenta con una... cioè i bookmaker lo pagavano tra 15 e 17 la vittoria dell'Atletico. Questo arriva lì e pam, segna al 15esimo. Sì, e segna, va bene. Poi dopo c'è questa sfortuna di questo rigore con espulsione, più o meno il rigore c'è, l'espulsione alla fine è pure, insomma, Però è grande, l'allenatore si mette il suo e toglie Diego, che io dico, per me stava facendo una partita spettacolare, perché il povero Diego è un po' sfortunato secondo me, questa partita entra nella casistica della sua carriera, secondo me alla fine è un po' sfortunata, perché sta facendo una partita di contenimento su Xabi Alonso e di grande fase offensiva, e toglie l'unico che aveva un senso in quella squadra, e questo è proprio da Atletico, da spararsi sui piedi. E lì finisce, certo. Io quando ho visto quella cosa lì ho detto no, cioè, perché? Era una partita divertente. E così, però il Real Madrid è una squadra molto seria quest'anno. Sì. L'unico che sta facendo le spese è il povero Kakà, che di nuovo è sparito dal radar. Beh, questa è una non notizia però, permettimi. Perché... No, quest'anno è di nuovo una notizia, perché stava giocando benissimo. Sì, ma è ai margini di questo progetto. No, questo guarda progetto. Che a un certo punto ha fatto 4 partite di fila, molto bene, quindi sembrava che... Però Mourinho alla fine l'ha... così, adesso non... sì, dice c'è un dolorino, ma insomma c'è un dolorino un po' dolorino. Sì, un po' troppo ino. Sì, e questa è l'unica, però è una squadra fortissima... molto convinta, molto tranquilla, insomma interessante. Vediamo, è il 7° classico del 2011, forse potrebbe essere il più bello, insomma, il più sempre che Real Madrid non vada a giocarla a chi è più bello guardandosi allo specchio, perché il discorso che abbiamo fatto mille volte, sì. L'ho fatto anche prima con gli ascoltatori, il Barcellona non lo affronti guardandoti allo specchio, il Barcellona lo affronti facendoti brutto, sporcandoti la faccia andando a chiudergli le porte, no? Sì, occhi bassi e via, correre e così senza... No, vediamo, però diciamo tra tutti, ovviamente sai, il fascino della semifinale di Champions resta intoccabile, però questo classico è interessante, perché per la prima volta il Barcellona, intanto Guardiola non è mai stato dietro, per sì. Penso di 2 punti, non sì. So, mi sembra com'è, e adesso ne ha 6, quindi deve venire qua, è sempre venuto qui giocando sarai vincendo, adesso è proprio obbligato, quindi sì, è più interessante, insomma. Anche perché ho la sensazione che anche quest'anno sarà la prima puntata di un serial che vedremo diverse volte nel corso della stagione, quindi è solo l'atto primo, anche se è estremamente importante per le ragioni che dici tu. Filippo, ti ringrazio, ti abbraccio e ti saluto. Alla prossima. Grazie. Sono i miei amici ascoltatori, Andrea da Macerata, buonasera. Buonasera Carlo. Dica. Dunque, io sono sia un ignorante di calcio sia un ignorante di economia, però volevo fare con te un piccolo ragionamento, perché prima hai fatto un'affermazione giustissima quando hai detto che i nostri stipendi sono determinati dal mercato. Mm. Però secondo me, a mio modo di vedere, quello dei calciatori è uno stipendio falsato. Nel senso che secondo me non c'è un reale mercato, perché ogni azienda che opera in regime di mercato secondo me ha dei costi distribuiti sia sul personale, sia sulle strutture, sia su tutti gli altri aspetti della produzione, no? Che sia essa produzione o servizi. In questo caso non possiamo, quindi Andrea, i soldi del calciatore glieli regalano? No, non volevo dire questo. Dicevo che se le aziende e le società sportive fossero delle aziende a tutti gli effetti, magari con gli stadi di proprietà, con tutti quelli che sono i conti economici di un'azienda normale, a quel punto secondo me il mercato che rende X euro, perché questo è... costringerebbe le società ad abbassare gli stipendi dei calciatori, perché quella non sarebbe l'unica voce di costo. Sì, però questo discorso che facciamo non è riferito solo al mercato italiano, è riferito al mercato globale dei calciatori. All'estero ci sono società che hanno stati di proprietà, che hanno sistemi manageriali più avanzati rispetto al nostro, e gli stipendi sono come i nostri o anzi più alti, perché in Inghilterra e in Spagna girano cifre superiori. Ma possiamo parlare, allargare ulteriormente il discorso e parlare degli stipendi degli sportivi tout court, dai piloti di Formula 1 ai giocatori di basket NBA, visto che l'NBA inizia, o degli sport americani, dove magari i conti li sanno fare meglio rispetto a noi. Quindi non ne faccio un discorso di moralità o meno, ne faccio un discorso di mercato. Quindi o diciamo che sono tutti dei fessi e agli sportivi regalano i soldi, oppure bisogna ragionare in termini diversi, no? Esatto, secondo me andrebbe ragionato rendendo queste società, io poi non conosco bene, ripeto, la realtà estera, però andrebbero rese, per fare bene i conti, andrebbero rese queste aziende delle imprese vere e proprie, cosa che almeno in Italia a me personalmente non sembra, no. Perché quando una squadra gioca in uno stadio comunale, oppure la sicurezza è demandata comunque allo Stato. Lo so, però. No, ma vabbè, adesso stiamo un po' divagando e andando su altri temi. Quello che dico io è che, Andrea, il discorso che bisogna fare è generale, cioè non guardare al mercato italiano e dire noi siamo fessi, gestiamo male le nostre società, abbiamo gli stadi comunali che fanno schifo, ci costa un sacco di soldi far giocare le partite di calcio, ma andiamo su questi discorsi ormai sentiti molte volte, no? E che anche in questo caso sono abbastanza demagogia. Quello che cui faccio riferimento io è il mercato globale dello sport, non è il mercato italiano del calcio. E quindi, secondo me, se continuiamo a dire, ed è un discorso molto facile, in tempi di crisi è immorale che questi guadagnino tutti questi soldi, a me sta tanto di demagogico. Io dico, provo invidia nei confronti degli sportivi che fanno un bel mestiere, guadagnano molti soldi, punto. E questo mi sembra un discorso più onesto. Se invece vogliamo dire, mi stanno antipatici perché guadagnano molto, facciamolo pure. Però, ripeto, è un discorso che va generalizzato per il mondo dello sport e per il mercato dello sport, non solo italiano. Giuseppe Benevento, buonasera. Sì, buonasera signor Callo. Senta, io le volevo chiedere un'opinione, diciamo, sulla mia squadra, la Roma in questo caso, che in riferimento particolare alla partita di venerdì sera contro l'Udinese l'ho vista abbastanza confusa. Mi ero illuso che, insomma, potesse cambiare il trend dopo le ultime partite, ma mi rendo conto che dopo partite contro il Novara e il Lecce, cioè contro il Lecce soprattutto, insomma, no, non facevano adesso vista la pochezza della squadra in quella specifica serata. Però in riferimento a venerdì sera ho visto una squadra che praticamente ha fatto, non indietro come hanno detto alcuni giornalisti, ma secondo me 3-4 perché... Giuseppe, era un esame serio, cioè la Roma sta studiando la squadra, ancora non è una squadra, non so se c'è stato un pizzico di illusione dopo una serie di risultati comunque positivi. L'altra sera è stato piuttosto evidente il confronto tra una squadra verissima come l'Udinese e una squadra che ancora ha delle certezze abbastanza friabili come la sua Roma, mi pare. Che margine di possa avere una squadra così, visto che l'allenatore, secondo me, tutta questa sicurezza di facciata incomincia a perderla un po', perché non prima a cambiare anche il centrocampo, non lo so. E così facendo non dà grandissimi punti di riferimento neanche ai giocatori. E da questo punto di vista mi sembra così, non tanto un gioco da ragazzi, le botte tra la mela e Osvaldo negli spogliatoi, però magari il sintomo di un clima interno alla Roma che non è di grandi certezze, quindi insomma la Roma così com'è mi sembra un po' l'antitesi rispetto al Napoli. Napoli che va con delle certezze, Udinese che vanno con certezze granitiche, con titolari fissi, con un modello ben identificabile ed individuabile. Una Roma che invece procede un po' a tentativi con Luis Enrique, che ha certamente delle idee ma procede un po' a tentativi, cambiando e ricambiando gli interpreti del gioco. In questo modo è molto difficile dare alla squadra delle certezze ferme, insomma. Guido da Livorno, e poi penso aggiorneremo la seduta all'appuntamento con il basket delle 20:30. Guido, buonasera. Sì, buonasera. Volevo fare innanzitutto i complimenti a Dennis, a dimostrazione che quando un giocatore trova la sua dimensione, secondo me, come un po' Giovinco nel Parma, insomma, sì, secondo me hanno bisogno di giocare. Però Guido, mi perdoni, bisogna capire se è questa la dimensione di Dennis o se Dennis magari può essere un giocatore da un'altra dimensione, da un altro palcoscenico, con tutto il bene e l'ammirazione che ho per l'Atalanta. Lo vedrei bene nella Fiorentina, non so perché, magari una squadra media, diciamo, mi farebbe vedere una squadra un pochino più forte dell'Atalanta, però va bene. Poi volevo un attimino commentare l'arbitraggio di oggi, cambia di Bologna, dell'arbitro, sì. Valerio, secondo me non è un arbitro all'altezza, insomma, della Serie A, perché ho visto già fatto più di diverse partite che ha sbagliato. Sì. Boh, non saprei. Guardi, non saprei, sono i soliti temi che a me appassionano abbastanza poco, quelli dell'arbitraggio di Valeri in Cagliari-Bologna. Ho notato qualche errore sparpagliato qua e là, ho notato che alla fine tutti erano un po' nervosi e nessuno era contento, mi viene da dire che magari benissimo non ha arbitrato, però sinceramente sono così argomenti che mi lasciano un po' lì, sui quali non ho un'opinione precisa, vuoi perché la partita l'ho vista nel mazzo di tutte le altre, vuoi perché non sono abituato proprio a star lì ad analizzare con il lanternino l'operato di un arbitro, quindi non saprei sinceramente cosa rispondere. Piuttosto so perfettamente che alle 8:30 ci troviamo per l'appuntamento con il basket. Un basket italiano che perderà, e qui già lo sapete perché la notizia di ieri, Danilo Gallinari tra un paio di partite, perché il campionato NBA a sorpresa ricomincia, e dunque godiamoci le ultime uscite di Gallinari. Poi vi raccontiamo anche com'è finita, io e Dario Ricci, dalle 8:30 in poi. Tanto ne approfitto per ringraziare Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, Filippo Aureggi in regia, e per darvi appunto l'appuntamento alle 20:30. Dopo.